La zanzara. Con Alessio Maurizi. Comunico che in data 13 agosto 2011 è stato presentato il seguente disegno di legge dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Conversione in legge del decreto legge 13 agosto 2011 numero 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si svolgerà lunedì 5 settembre alle ore 18. Comunicazioni del Presidente in ordine alle decisioni della conferenza dei capigruppo sul calendario dei lavori. La seduta è tolta. Buonasera. La bufera è passata, ogni cosa al suo posto. Numero verde 824 0024 per intervenire anche questa sera in diretta alla Zanzara, cari ascoltatori, 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it. Quello che avete sentito era Vannino Chiti. Ieri la manovra è stata incardinata, diciamo così, con un gergo parlamentare, al Senato, seduta di 11 senatori, 6 minuti appena. Con queste parole Chiti ha licenziato tutti ed è polemica sollevata da l'Italia dei Valori per il numero esiguo, diciamo così con un eufemismo, di senatori presenti, solo 11. Intervento di autodifesa gamba tesa subito di PD e PDL, che dicono si trattava solo di un passaggio formale per il quale non è previsto la presenza di parlamentari. Allora però ha ragione Calderoli quando dice: se i parlamentari non servivano, che restino a casa, perché altrimenti con i loro viaggi in aereo sono troppo costosi per una seduta inutile. Titoli Sky TG24. Crisi Piazza Affari chiude in profondo rosso, meno 6,15%, in calo anche Wall Street. Manfarro poi rassicura, non prevediamo la recessione in Europa. Un nuovo scudo nella manovra, Calderoli non ne so nulla, Bersani no ai condoni. Infermiera con la tubercolosi, un caso di contagio di una bimba in un ospedale della capitale. Attacco diplomatico alla Siria, Europa e Stati Uniti chiedono le dimissioni di Assad. Israele, autobus colpiti a Eilat, tra i 14 morti anche i 7 attentatori, e rappresaglia su Gaza. La bufera è passata, ogni cosa al suo posto. Festeggiamo l'estate ed il mare di agosto. Tutti insieme compatti, la fonte da Tarzano. Insieme felice in nome del popolo italiano. La seduta è tolta nel nome del popolo italiano. Così abbiamo sentito Vannino Chiti ieri, che presiedeva l'aula nel momento nel quale si sono votate credo solo le eccezioni di costituzionalità sul decreto, sulla manovra. E appunto, come detto, qualcuno ha detto: beh, insomma, 11 senatori, una seduta di 6 minuti, veramente imbarazzante. Però si trattava di un passaggio formale, questo almeno è quello che dicono tutti i parlamentari interrogati. E allora cominciamo a sentire qualcuno di loro. Lucio Malan. Ieri si prendeva la parola solo se si voleva dire che il decreto non rispettava la Costituzione nel modo in cui è stato emanato. Ma siccome io non ritengo che questo decreto violi la Costituzione nel modo in cui è stato varato, non avevo davvero nessuna ragione per essere lì. Neanche i membri dell'opposizione invece hanno parlato. Qualcuno ha ritenuto che spendere il biglietto aereo, farlo spendere al contribuente per venire a Roma a ascoltare 6 minuti di formalità, non era il caso. E questo che ha sostenuto questo era il ministro per la semplificazione Roberto Calderoli, che forse potrebbe sì semplificare anche questi passaggi parlamentari, perché in effetti se di passaggio formale si trattava, allora erano proprio inutili le presenze dei parlamentari. Ma risentiamo ancora Malan, che dice: io comunque non accetto lezioni di moralità da nessuno. Io non accetto lezioni da codesti signori. Perché io l'anno scorso sono venuto in aula con l'ago della flebo in vena, anzi ne avevo due perché c'era bisogno continuamente di dover intervenire. Sono venuto quando non avrei neanche dovuto uscire di casa dopo un grosso intervento chirurgico, per cui coloro che hanno ritenuto di andare ieri e hanno fatto molto bene, e che quei due o tre che poi hanno pensato di fare gli zelanti francamente, diciamo, per metterla bene, mi fanno ridere. E poi il solito immancabile attacco anche ai giornalisti che sono assenti, secondo Malan, nella apposita tribuna stampa. Perché la tribuna dei giornalisti è sempre vuota? Non è che noi spariamo sui giornalisti perché non ci sono, noi supponiamo che facciano il loro lavoro. C'è una tribuna che è praticamente sempre vuota. Sono molti più giornalisti al ristorante. Come la sa, si possono fare. Comincia andare a fare il bicameralismo più che vedere chi c'è in tribuna. Cioè. Rispondo io, Malan, la differenza è che lei è pagato dai cittadini italiani e noi giornalisti no. Questa polemica è arrivata anche in TV perché ieri Emilio Fede ha mostrato l'aula al momento in cui si parlava appunto del servizio, che parlava del decreto che arrivava al Senato, ha fatto vedere un'immagine dell'aula piena di parlamentari e qualcuno ha detto ma qui si taroccano le immagini e si dà un'idea falsa della seduta del Senato. D'altra parte Fede si è difesa e ha detto che immagini dovevo mettere? Immagini di repertorio, non c'erano immagini di quella seduta. E c'è anche chi dice: io dovevo essere presente a questa seduta ieri, però ho perso il treno. Così Roberta Pinotti del PD. Ieri non era al Senato, volevo chiederle come mai. Io sono qua questa mattina perché in realtà ieri mi ero premurata, diciamo, di prendere un treno per arrivare al Senato. Purtroppo questo treno è arrivato tardi, la seduta di 6 minuti, e quindi non sono. Perché? Io avevo deciso di venire perché da un punto di vista simbolico, come è stato detto, mi sembrava importante, diciamo, che ci fosse questa presenza. E non si sa se fa più ridere la scusa ho perso il treno della Pinotti oppure la tragica fatalità che con consuetudine si ripete dei treni italiani che sono in ritardo. Ancora la Pinotti, anche lei d'accordo sul fatto che forse sono sbagliate le procedure in questi casi. Il diciamo rito, la liturgia o comunque l'atto che si è compiuto ieri è un atto che da un punto di vista, diciamo, della sostanza ha un po' poco senso che venga svolto così, nel senso che il presidente arriva, si siede, in quel caso Rachiti, e dice questo è l'atto che deve essere incardinato e poi comincia proprio in commissione. È più sensato da questo punto di vista rivedere delle cose, cose, questo regolamento detto cosa al suo posto, festeggiamo l'estate. Intanto sul fronte dei provvedimenti che verranno discussi in Parlamento a partire da lunedì prossimo c'è una nuova retromarcia sulla possibilità di ritassare i capitali scudati. Per il ministro Calderoli in realtà non è una retromarcia perché, dice lui, non se n'è mai parlato, è una realtà virtuale. Io lo sento dai giornalisti, però ormai sono i giornalisti che fanno le manovre. Francamente io dello scudo bis non ne ho mai sentito parlare, però voi lo scrivete due volte, dopodiché diventa la realtà, una realtà virtuale, ma che nella manovra non c'è. L'opposizione però parla di un condono sottobanco che il governo vuole proporre con questa proposta dei capitali scudati, cioè sapete, di ritassare i capitali che sono riemersi grazie allo scudo fiscale. Di Pietro però è molto duro, dice: io non vedo perché bisogna fare dei tassi agevolati, dovrebbero andare tutti in galera gli evasori. Udite, udite, vorrebbero ancora una volta graziare gli evasori fiscali, cioè dire questi possono farla franca semplicemente pagando un una tantum. Ma io non ho capito perché chi evade le tasse non debba andare a finire in galera. Perché per colpa sua noi abbiamo un sacco di debiti in Italia e non siamo in grado di affrontare questa crisi. Cuneo. Se le province di Savona e Imperia devono sparire perché così si è deciso, va bene, lo accettiamo, però chiediamo di essere annessi alla provincia che scegliamo noi, di andare con Cuneo. Visto che ci hanno messo il cappio al collo, ci lasciano almeno scegliere il ramo a cui andiamo a attaccare la fune. Il fronte della protesta di comuni e province che protestano appunto per i tagli che rimandano al mittente. Questo che avete sentito dal presidente della provincia di Savona, che ieri alla Zanzara ha detto, beh, insomma, se proprio dobbiamo, come avete sentito, essere tagliati, accorpati, non con Genova, vogliamo andare con Cuneo. Vaccarezza che dice è un'immagine molto negativa quella dei ministri, in Consiglio dei Ministri, che approvano questo taglio a noi amministratori di comuni e province, mentre loro con la faccia goduta non tagliano nulla sui ministeri. È un modo un po' strano di far cassa in questo paese, perché vedere i ministri della Repubblica in maniera molto così goduta raccontano il taglio di poltrone e sommano tutte le poltrone come se un presidente di provincia e un onorevole fossero due cose paragonabili. A chi come me fa da 23 anni amministratore, un pochettino è facile girare le scatole, ecco, mettiamola così per non usare altri termini. Cuneo, vuole andare a Cuneo, la provincia di Savona. E sul piede di guerra però ci sono anche i comuni, non solo le province. Lanci ha già organizzato una manifestazione per il 29 di agosto, l'Associazione Nazionale dei Comuni, guidata adesso da Osvaldo Napoli, esponente del PDL, e quindi in contrasto con la sua stessa maggioranza. Il punto è, dicono che i tagli, i risparmi che si otterrebbero sono poca cosa rispetto a quello che invece è richiesto dalla manovra. Sentiamo ancora Vaccarezza sul fatto che gli amministratori locali non vanno neanche messi a confronto con gli onorevoli nazionali. Tutti gli amministratori comunali, provinciali, finito il loro mandato, tornano a fare il lavoro di prima, finito di fare gli amministratori, l'unica cosa che possono avere è essere chiamati a rispondere di delibere che hanno approvato e che hanno creato dei danni patrimoniali all'ente, senza percepire né benefit né altro e soprattutto niente pensione. In questo momento in cui finalmente si parla di macro regioni, di aree omogenee, Cuneo è il nostro sfogo naturale, la nostra porta verso l'Europa e verso l'economia. Ci ha fatto anche il militare Totò. Evviva il centro storico, ovvero Cuneo Vecchia. Cuneo, la porta verso l'Europa, una affermazione per certi aspetti esilarante da parte del presidente della provincia di Savona, Vaccarezza. Ma il problema c'è sotto traccia. Comuni e province rigettano al mittente i tagli chiesti dal governo. 18:18, siamo al traffico, poi rientriamo tra pochissimo. 824 0024. Numero verde 824 0024 per intervenire in diretta tra pochissimo. Prima salutiamo il nostro primo ospite di questa sera, Giampaolo Bottacin, presidente della provincia di Belluno della Lega Nord. Buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Senta, in queste ore, in questi giorni, la geografia politica ruota tutta attorno alla sua provincia, perché ci sono Bossi e Calderoli a Calalzo di Cadore, c'è il ministro Tremonti a Lorenzago, località dove trascorre le sue vacanze in prossimità del suo compleanno. Lei stasera andrà alla cena, la tradizionale cena all'Hotel Ferrovia con Tremonti? No, io vado alle cene a cui sono invitato. Questa è una cena riservata per il compleanno del ministro Tremonti, quindi io non parteciperò a quella cena perché so che il numero è molto ristretto. Chi parteciperà, ovviamente i nomi io non li conosco, quindi io non parteciperò. Lei non è mai stato invitato, non è come la storia del comizio a Calalzo, che prima era stato annunciato con Bossi e Calderoli, poi invece sarebbe stato cancellato per paura di proteste da parte del mondo della Lega, che tra l'altro anche lei rappresenta. Bottacini, questo giallo del comizio era previsto o no, il comizio a Calalzo di Bossi? Ma era previsto sì, perché c'erano i manifesti, ma ovviamente di queste cose si occupa il segretario provinciale della Lega, non me ne occupo io, quindi i dettagli non li so. So che lui aveva ricevuto, il segretario provinciale, una telefonata da parte della Digos, e quindi aveva detto che avrebbero potuto esserci dei manifestanti. Però da questo a dire che sarebbe stata una contestazione della Lega, ce ne passa. Però lei adesso invece ci dirà che cosa lei contesta delle mosse della Lega al governo. Però è vero che in queste ore vengono segnalati esponenti delle manifestanti del PD proprio davanti all'Hotel Ferrovia in vista di questa cena. E quindi aveva ragione la Digos. Però è la prima volta che Bossi non tiene il comizio a Calalzo in questa stagione? No, beh, l'ha tenuto gli ultimi due anni, ma prima non lo teneva. Però c'è questo malumore nella Lega, Bottacini. Lei stesso si è recato dal ministro Calderoli, prima che arrivasse Bossi, proprio all'Hotel Ferrovia, e gli ha esposto le sue perplessità sui tagli ai comuni e alle province. Ma io ho parlato delle province, ovviamente dei comuni molto meno, anche se 18 comuni sotto i 1000 abitanti, quindi che dovrebbero sparire, sono in provincia di Belluno, e quindi il tema ci tocca da vicino, essendo una provincia montana tanti comuni sono piccoli. No, io ho parlato dell'ente provincia, nel senso che poi fra l'altro la provincia di Belluno, come la provincia di Sondrio, ha vissuto un attimo un giallo, no, venerdì scorso, sì. Perché all'inizio pareva che il criterio fosse quello dei 300.000 abitanti e noi ne abbiamo 214 e quindi avremmo dovuto sparire. Poi il ministro Calderoli ha introdotto in Consiglio dei Ministri con l'aspetto territoriale, sì. Quindi 3.000 chilometri quadrati, noi ne abbiamo quasi 4.000, Sondrio ne ha 3.400, per cui le due province... È andata bene, avete tirato un sospiro di sollievo, Bottacin, però qualcuno dice c'è stata una manina generosa, guarda caso Belluno, i luoghi della Lega, no. E Sondrio, la provincia del ministro Tremonti. Non so di chi siano i luoghi di Siena e delle altre province, perché ce ne sono ben altre che sono state salvate. Non moltissime però, quante sono quelle che sono 4 o 5? Invece ieri ho spiegato molto bene che il criterio territoriale è l'unico che va bene, quello introdotto il ministro Calderoli, perché le province hanno competenza nella gestione del territorio, non nei servizi alle persone. Quindi quando si dice le province piccole, si dovrebbe considerare piccola estensione territoriale, non il numero di abitanti. La mia provincia è la più grande del Veneto, la più estesa del Veneto, pur essendo la più piccola come numero di abitanti. Ma se noi andiamo a vedere le competenze, noi le più importanti competenze che abbiamo è il trasporto pubblico locale extraurbano, e io ho 711 chilometri di strade extraurbane, la viabilità, e io ho appunto 711 chilometri di strade extraurbane interamente in montane, quindi bisogna anche tirar via la neve, fare in modo che non si ghiaccino, coprire i buchi a primavera quando non nevica più, insomma abbiamo delle spese consistenti. E poi un tema assolutamente importante è che le province hanno come competenza la difesa del suolo. La difesa del suolo vuol dire che io mi gestisco 6.000 delle 9.000 frane che ci sono in Veneto, e queste sono le spese più grosse che ho io e che hanno le province. Ora voi capite che una provincia vasta di montagna, quindi con tanti dissesti idrogeologici, con tante strade da gestire, ha bisogno di avere più risorse rispetto alle altre. Quindi se ci sono da eliminare le province perché le province hanno delle competenze che insomma non sono poi così importanti, se questo è il criterio, si dovrebbe eliminare prima quelle più piccole come estensione territoriale, che appunto hanno minori competenze, rispetto a quelle grandi come estensione territoriale come la mia, che hanno più competenze. Questo è un ragionamento assolutamente logico. Detto questo, io dico un'altra cosa. Però scusi un attimo, Bottacin, poi la faccio proseguire. Però mi sembra evidente che, diciamolo, insomma, per la Lega è dura da mandar giù, la Lega, il partito che punta tutto sul federalismo, da mandar giù il taglio ai piccoli comuni, alle province, proprio agli enti periferici. Lo hanno detto in molti, insomma, c'è questo malumore nella base della Lega. Se lei dovesse misurare la temperatura di questo malumore in una scala, che temperatura misurerebbe? Da 1 a 10? Allora, no, il malumore non è nella Lega, il malumore è in tutti i cittadini. Nella Lega è dovuto al fatto che tanti militanti che mi contattano dicono: ma perché noi dobbiamo fare ulteriori sacrifici e tagli quando il nostro territorio, il territorio della provincia di Belluno, ha un residuo fiscale di 800 milioni di euro all'anno nei confronti dello Stato? Contribuiamo già alla solidarietà nazionale da un sacco di anni e adesso ci chiedono ulteriori tagli. Non è accettabile. E quindi per salvare l'Italia. Come la misurerebbe questa temperatura? La temperatura, insomma, si sta alzando la temperatura. E volevo appunto, quello che stavo dicendo prima è che siamo in una situazione economica particolare, mondiale, ma anche nazionale, perché quel debito di 1.900 miliardi di euro non è stato creato dalla mia generazione, ma gli amministratori della mia generazione sono quelli che lo subiscono e che devono andare a dire ai loro concittadini: ti taglio i servizi per pagare il debito fatto da altri. Questo ci mette particolarmente in difficoltà, perché negli anni 70 e 80 gli amministratori una rotatoria o un marciapiede non lo negavano a nessuno. Noi non possiamo neanche, cioè, ormai non abbiamo più soldi per pagare i dipendenti, ci sono i sindaci che guidano lo spazzaneve perché non hanno più l'operaio. Ma lei è andato con il gonfalone listato a lutto da Calderoli, minacciate dimissioni? No, io non ho detto minacciate dimissioni, ho detto semplicemente che nel momento in cui si fa una, essendo un momento difficile quello che dicevo prima, e quando ci sono da prendere decisioni drastiche, vanno prese. Ora, se l'Italia ha quattro livelli di governo e l'ente che viene ritenuto meno indispensabile è l'ente provincia, per me non è un problema, si tolgano le province, si tolgano tutte. Però il fatto di dire ma no, alcune sì, alcune no, ad alcune le mettiamo in difficoltà perché tagliando tutti i trasferimenti non hanno più soldi per pagare i dipendenti, come è il mio caso, tanto vale toglierle, perché se io non ho i soldi per pagare i dipendenti, a quel punto cosa sto lì a fare? Questo è il ragionamento, tutto là, molto semplice. Quindi potreste arrivare anche a dimettervi se passasse questo taglio? Guardi, se non ci sono i soldi per pagare i dipendenti, la provincia muore comunque, che io mi dimetta o no, muore comunque perché non ci sono i soldi per chiudere il bilancio. Questa è la realtà dei fatti. E le province che hanno pochi abitanti e quindi poco gettito derivante da entrate proprie e vasto territorio, quindi grosse spese, non ce la fanno da sole, hanno bisogno di avere dei fondi perequativi. Per questo ho chiesto al ministro Calderoli di anticipare il federalismo fiscale che prevede i fondi perequativi a domani, e lui mi ha detto guarda, lo facciamo dal 1 gennaio, e quindi questo è rassicurante. Però ovviamente io ho 2 anni che faccio tagli, razionalizzazioni, perché insomma anche la mia provincia qualche spreco l'aveva fatto quando non c'ero io. Ma non lo dice il sottoscritto, lo dice la Corte dei Conti, che ha condannato il mio predecessore a rifondere i danni che aveva creato con una consulenza non ben identificata da parte della Corte dei Conti. Ma secondo lei Calderoli si farà portavoce di questa cosa con Tremonti già questa sera, magari alla cena? Ma io credo di sì che ne parlerà questa sera, perché ripeto, il problema è territoriale, non è di destra, di sinistra, di sopra o di sotto, è territoriale, riguarda tutti. Su questo tema, sul fatto della provincia di Belluno, sono tutti d'accordo, da Confindustria alla CGIL. Quindi per la Lega potrebbe essere un'emorragia di voti alla prossima tornata elettorale se passasse questa cosa qua, perché quello è un territorio dove normalmente la Lega di voti ne prende. Sì, ne prende, però voglio dire, ne prende e i voti a chi andrebbero? Questo è da capire. Probabilmente la gente forse non andrebbe a votare, di certo non voterebbe per chi, come dicevo prima, faceva sprechi e veniva condannato per danno erariale, insomma. A chi si riferisce? Al mio predecessore. E chi è? Il mio predecessore oggi siede in consiglio regionale con uno stipendio che è triplo, anche questo va detto alla gente, triplo rispetto a quello di presidente della provincia. Ed è Sergio Reolon, che è stato condannato dalla Corte dei Conti per aver dato un incarico a una psicologa che secondo la Corte dei Conti non era lecito. E di che partito era? Mi scusi, chi? Partito Democratico. Partito Democratico. Senta, ma forse aveva ragione, perché Bossi ha sentito, no? Dovevamo decidere tra le pensioni e i comuni, io mi sono deciso, la mia coscienza mi ha detto non possiamo tassare i poveracci, era meglio invece tassare le pensioni? Cioè, l'andamento? No, guardi, è meglio semplicemente che il residuo fiscale, cioè gli 800 milioni che i cittadini e le imprese della provincia di Belluno versano allo Stato da 60 anni, rimangano in provincia di Belluno. Però mi scusi. E noi ci paghiamo sia le pensioni che i comuni che la provincia. Bossi ha fatto un discorso diverso, è il segretario del suo partito, tra l'altro, ed è un ministro della Repubblica. Ha detto dovevamo scegliere in Consiglio dei Ministri tra mandare in pensione la gente più tardi e chiudere i piccoli comuni e alcune province. Io ho scelto, la coscienza mi ha detto di salvare i pensionati, e questa era l'alternativa. E lei cosa avrebbe fatto? Sarebbe intervenuto sulle pensioni? Avrei detto che ogni regione si tenga i suoi soldi. Io non sono in consiglio. Ma non era questa la possibilità all'ordine del giorno nel Consiglio dei Ministri che ha varato la manovra? Non c'era questa ipotesi? Ho capito, lei mi ha chiesto cosa avrebbe fatto lei, io le dico cosa avrei proposto io. Poi ma io ma mi interessa il suo giudizio sull'operato di Bossi, che ha posto questa alternativa e ha spiegato il perché del taglio ai comuni. Lei lo critica o come no, dire? No, assolutamente no, perché Bossi ha anche detto una cosa diversa, dovete dirla tutta la verità, perché a un comizio ha detto il problema non è togliere le province, è una cosa che aveva richiesto e imposto il PDL e abbiamo dovuto cedere, l'ha detto a un comizio pubblico, quindi insomma... Ovviamente quando si è in un Consiglio dei Ministri, si è in tre e gli altri sono molti di più, è ovvio che devi andare a mediazione. Resti un attimo con noi, Battascin, resti un attimo con noi, chiariamo anche quest'ultimo aspetto, facciamo, se può restare con noi ancora per un attimo, facciamo una pausa per la borsa e rientriamo tra pochissimo col Presidente della provincia di Belluno. Numero verde 800 24 0024, tra pochissimo titoli del TG2 intanto. La frenata dell'economia e la prospettiva di tassazione delle rendite finanziarie fanno crollare le borse in tutta Europa. Milano a picco perde oltre il 6%, male anche Wall Street. Razzi in Israele contro un pullman, presi di mira anche auto private vicino al centro turistico di Eilat. Morti 7 passeggeri e 7 attentatori, prime rappresaglie dell'aviazione israeliana. Benedetto XVI a Madrid per la giornata mondiale della gioventù. Dal Papa un appello contro la precarietà. Per i giovani ci sia un lavoro dignitoso e sicuro. L'infermiera malata di tubercolosi al Gemelli, contagiato un neonato. Test su 1000 bambini, unità di crisi alla Regione Lazio. I medici rassicurano le famiglie, rischi bassi, evitare il panico. Incubo squali, anche nell'Oceano Pacifico, al largo delle coste russe. Ragazzo di 16 anni ferito a una gamba, un altro di 25 perde entrambe le braccia agli attacchi a pochi metri dalla spiaggia. E rientriamo con il presidente della provincia di Belluno, Gianpaolo Battascin. Buonasera, ancora con noi? Sì. Eccolo qua. Senta, noi sapevamo che la Lega è contraria all'abolizione delle province, però adesso che il quadro è cambiato, c'è stato questo Consiglio dei Ministri, si sono dovute approvare delle riforme, lei dice che Bossi ha detto pubblicamente che non lo voleva questo intervento sulle province, ma l'ha voluto il PDL. Appunto, è esattamente quello che ha detto lei. La Lega è sempre stata contraria all'eliminazione delle province e dice che non è quello il problema. Però adesso il quadro è cambiato. Questo forse è quello che non c'è neanche molto... Cioè, lei ha detto sì, c'è la crisi, però mi sembra che nel discorso che lei fa sia un po' assente questo elemento. Cioè, il quadro generale è cambiato, no? Cioè, c'è una crisi, c'è stata una manovra più o meno d'emergenza, si è dovuto intervenire per anticipare il pareggio di bilancio e su questo è stato messo sul piatto anche l'abolizione di enti ritenuti inutili, ma lei non condivide, secondo lei non condivide neanche Bossi. Perché? Non lo dice lei, lo dice lei che a Bossi ha detto così. Sì, no, Bossi ha detto che la Lega è contro l'abolizione delle province e che non è questa la soluzione per risolvere il problema. Tanto è vero che eliminare 30 province vuol dire risparmiare 15 milioni di euro, su una manovra da 40 miliardi, lei capisce che è assolutamente... è insufficiente, cioè è un segnale, ma poi non so neanche che segnale, perché ovviamente se togliamo 30 presidenti di provincia e gli assessori conseguenti, quanti saranno? 150 assessori, eliminiamo il costo di quelli. Ma i dipendenti, vabbè, sui conti però bisognerà vedere, perché lei 15 milioni di euro mi sembra un po' poco. Guardi, i numeri sono questi. Il costo dell'ente provincia, il costo della macchina amministrativa, quindi degli assessori, credo che Tremonti abbia messo un po' di più a guardi, le dico, i numeri sono questi, sono 113 milioni per tutte le giunte, i consigli provinciali d'Italia, siamo in 110, quindi mediamente 1 milione a provincia. Siccome vengono eliminate province più piccole e noi lo stipendio è in base al numero di abitanti, mediamente le province piccole tipo la mia costano 500.000 euro, 30 per 500.000 sono 15 milioni, questi sono i numeri. Per cui voglio dire, poi si può dire quello che si vuole, ma o fanno una legge, dicono tutti i dipendenti delle province eliminate sono licenziati, poi dovranno spiegare chi andrà a pulire le strade e a fare i servizi nelle province eliminate, perché sono cittadini anche quelli, non è che quei cittadini non pagano le tasse. Sì. Senta, lei o si fa una legge così, sì. O se no risparmiano assolutamente irrisorio. Cioè. A questo punto la palla passa nelle mani di Tremonti. Lei ha fiducia in Tremonti che capisca questa vostra richiesta? Io me lo auguro, perché ripeto, l'alternativa è quella che le province che sono piccole, cioè che hanno pochi abitanti ma tanto territorio, non abbiano più i soldi per chiudere i bilanci e pertanto sono destinate a morire. Ma allora, ripeto, se questo è, come dire, si tende a questo, tanto vale fare un provvedimento subito, si dice vengono eliminate tutte le province, si cancella la parola provincia nella Costituzione, dal 1 gennaio 2012 non esistono più e le competenze che oggi hanno le province passano in capo alle regioni o a chi si riterrà opportuno, insomma. Però questa situazione è abbastanza confusa. Grazie Bottacin, buona serata. Buona serata, arrivederci. Grazie. Andiamo con gli ascoltatori, Gian Pietro che ci chiama dalla provincia di Vicenza, buonasera. Buonasera, io volevo fare una considerazione un po' sulla classe politica nostra, anche se è un tema abbastanza dibattuto in questi giorni. Quello che io credo manchi nella nostra classe politica è il senso dello Stato, la funzione che dovrebbe avere la politica dovrà essere funzionare alla società, capace di progettare il futuro piuttosto che fine a se stessa. La sentiamo male Gian Pietro, la sentiamo male e vediamo se magari ci riproviamo più avanti. Grazie. Pierluigi da Teramo, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io facevo una considerazione, ieri sentivo la sua trasmissione e attentamente ascoltavo quello che diceva il presidente Formigoni. Sinceramente sono rimasto senza parole quando lei giustamente parlava del pagamento dell'ICI da parte non della Chiesa e lui le ha fatto l'appunto dicendole no, guardi che sono tutti edifici di culto, quindi di conseguenza sarebbe quasi blasfemo pagare l'ICI. Mi fa specie che una persona come Formigoni, che milita da tempo in CL, ex democristiano, non ricordi e non sappia di tutte le proprietà che ha lo Stato del Vaticano, la Chiesa, ma che sono alberghi, che sono pensioni, che sono tante strutture che portano reddito e soldi alla Chiesa stessa. Quindi penso, anziché proclamare, fare dei proclami assurdi come vendiamo la RAI o vendiamo le poste o non so che cos'altro, credo sia più proficuo affrontare il problema per quello che è, cioè siamo in una situazione difficile, diamoci una mano tutti quanti. Grazie Gian, grazie Pierluigi, resti in ascolto e anche gli ascoltatori che sono interessati a questo argomento, perché più avanti con un ospite cercheremo di fare il punto su questa cosa dei beni immobili della Chiesa, perché Formigoni ha lanciato una sfida, ha detto si faccia l'elenco dei beni immobili che non sono luoghi di culto e poi se ne riparla, e credo che l'elenco si possa fare e più tardi con un ospite ci proveremo. Riproviamo adesso invece con Gian Pietro da Venezia, da Vicenza. Buonasera. Pronto, buonasera. Eccolo, sì, adesso benissimo, sì. Prego. Niente, io volevo fare una considerazione sulla classe politica attuale, sia di governo che di opposizione, che sono personalmente estremamente deluso, come penso, ma la maggior parte della gente. Si parte dal fatto che la politica dovrebbe essere funzionale alla società, capace di progettare e di fare qualcosa, veramente. Rimaniamo perplessi perché più che altro funzionale a creare posti è fine a se stessa. Siamo in un momento di crisi, uno soprattutto nelle aziende serie, uno pensa a ristrutturarsi, però per ristrutturarsi deve avere una visione globale dello Stato e avere anche un senso dello Stato. Qui continuiamo a sentire proposte sparate, che però tutte scoordinate, anche le proposte che sono venute in questi giorni. Faccio ad esempio, sentire Fassino che parte, se parliamo degli organi più alti dello Stato, del Parlamento, dice tagliamo in modo drastico il numero dei parlamentari, vuol dire che fino adesso noi paghiamo delle persone che sono in sovrappiù, e tanto più che per ogni parlamentare potremmo benissimo pagare, non so, una decina di ricercatori. Se poi passiamo alla gestione così come strutturata. Mi scusi, proviamo a sentire Romani su Sky TG24, il ministro? Riusciamo? Che noi si lavori. I parlamentari, la maggioranza, tutti coloro che non si sono dichiarati d'accordo e che parlamentari sono, possono impegnarsi e presentare modifiche all'interno del Parlamento. E nell'intervista Romani diceva che, in un passaggio precedente che non abbiamo sentito, che non è allo studio una misura sullo scudo. Forse c'è anche Calderoli, sentiamo? Uguale, ma che nella manovra non c'è. Sì, sì, questo l'abbiamo sentito anche prima. Benissimo, Gian Pietro, prego, finisca col suo intervento. Sì. Lui dice dobbiamo tagliare in modo drastico i parlamentari, vuol dire che quelli che sono i parlamentari in più, che non servono a niente, a quel punto. E questo è possibile, e d'altra parte questo non è un buon motivo per non farlo, ci siamo sbagliati fino ad oggi, adesso invece ci si accorge che i parlamentari stessi si accorgono di essere in sovrannumero. Ci è voluto un po', ma insomma ce l'hanno fatta. A parte gli scherzi. Grazie Gian Pietro, l'audio tra l'altro non era il massimo. Claudio da Monza, buonasera. Sì, buonasera a lei, buonasera. Dico due o tre cosettine e cerco di essere anche veloce. Allora, il risultato a mio avviso di quello che sta succedendo a noi, e quindi sto parlando della manovra correttiva, o meglio della seconda manovra che è stata appena presentata, è frutto di quello che c'è stato in questi anni nel nostro paese, e cioè dei cosiddetti tagli trasversali. In questi anni, ahimè, è mancata, pur nella difficoltà, pur nei pochi soldi che c'erano, è mancato comunque una politica economica di indirizzo, di sviluppo. E questo l'hanno detto tutti in diverse occasioni, la Confindustria, la stessa Banca d'Italia, tanti parlamentari, eccetera. Quindi questo è il primo aspetto, a mio avviso. Secondo, adesso va di moda questo termine saldi invariati. Lo abbiamo sentito da Tremonti dirlo molto, molto spesso. Adesso ultimamente c'è anche il Presidente del Consiglio che scimmiotta Tremonti e dice: a saldi invariati accettiamo qualsiasi tipo di proposta. Ma mi dispiace, ma tutti sanno che se vogliamo raggiungere il pareggio di bilancio abbiamo bisogno di quanto abbiamo bisogno di 40 miliardi. Bene, quello, i saldi invariati è quello. In mezzo ci sta ancora una volta la politica economica. Cioè, non possiamo venire a dire a saldi invariati sentiamo e facciamo. Occorre ancora una volta una politica economica che non vedo ancora in questa manovra. Secondo. Grazie. Aspetti, sì. Finisco l'ultima cosa. Terza cosa. Veloce però, perché abbiamo... Sì, sì. Velocissima. Il mercato di cui tanto si parla, eccetera, che per motivi di lavoro io seguo da tantissimi anni e anche abbastanza assiduamente, si aspetta una manovra seria. Io credo che da tutte le discussioni di questi giorni temo che si arriverà ancora una volta ad un qualcosa di non ben definito. Allora, cancelliamo tutto, non voglio parlare di fantapolitica, ma mettiamo insieme opposizione e maggioranza intorno ad un tavolo che velocemente mettano insieme una manovra seria e che sia quindi a frutto di compromesso degli uni e degli altri. Vabbè, la manovra facciamo seria, grazie Claudio, grazie. La manovra seria è, sì, è un auspicio di tutti, però mi sembra un po' come acqua fresca. Abbiamo invece Sergio che ci chiama da Belluno ed è forse uno dei partecipanti a questo momento di protesta davanti all'hotel Ferrovia di Calalzo, è così? Sì, così. Lei è un esponente? Buongiorno. Sì, lei tra l'altro è un consigliere regionale del Partito Democratico. Sono consigliere regionale, ero segretario della provincia di Belluno fino al 2009. Ed è stato citato da Bottacin poco fa nella sua intervista, l'ha sentito? Ho sentito, ha fatto una citazione fuori luogo, sì. Perché noi abbiamo portato risorse, fatto investimenti e adesso invece stanno chiudendo la provincia, quindi altro che sprechi, abbiamo fatto un lavoro straordinario. Ne dice niente le Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità, l'abbiamo portato a casa noi, tanto per fare un esempio. E adesso invece stanno chiudendo la provincia e non stanno... Beh, ma non è colpa di Bottacin però se stanno chiudendo la provincia, mi sembra anzi che lui si batta perché questo non venga fatto. Ma io non ho nessuna voglia di fare polemica con Bottacin, altri. In questo momento Bottacin ha tutta la mia solidarietà. Ma lei adesso dove si trova? Dove si trova? Che cosa sta facendo? Noi stiamo protestando contro Bossi, Calderoli e Tremonti per la manovra che hanno fatto, che è una manovra che colpisce indiscriminatamente, quando si colpisce in modo indiscriminato a pagare le conseguenze sono i più deboli, in questo caso un territorio debole come un territorio montano. Reolon, resti in linea con noi un attimo perché le voglio chiedere qual è la situazione lì all'hotel Ferrovia Calalzo, però prima dobbiamo fare il traffico. Allora, Reolon, lei è lì per protestare contro la chiusura della provincia di Belluno, che però probabilmente non verrà chiusa perché rientra nei criteri nel parametro della superficie. Sì, però non si può ragionare in questo modo qui, a chiudere in base agli abitanti, alla superficie, senza un disegno invece di cosa si vuol fare di questo Stato, di come gli si ridà efficienza, di come si governa il territorio, si offrono servizi. Ecco, è questo che non è concepibile, ma poi la provincia di Belluno di fatto è già chiusa perché hanno tagliato i trasferimenti del 22,94% nel 2011 e siccome si prevede di tagliare il doppio alle province nel 2012 facciamo presto a fare i conti, vuol dire che la provincia di Belluno avrà meno di metà dei trasferimenti che aveva 3 anni fa in queste condizioni la provincia è già morta, non occorre chiuderla. Senta, ma lei in questa sua forma di protesta è al sostegno di tutto il suo partito, del Partito Democratico? Certo, c'è tutto il mio partito qui. Il Partito Democratico non è assolutamente d'accordo su questa posizione. Noi siamo perché, ma non è un problema delle province, ripeto, noi non ne facciamo una questione di enti, noi ne facciamo una questione di territorio. Qui c'è della gente che vive, che vuole che ci sia la sanità, che vuole avere la ferrovia. Ovunque c'è la gente pubblico. Che vive, però insomma. Senta, ho capito, ma lì lei è proprio davanti all'hotel Ferrovia? Sono dove... davanti all'hotel Ferrovia. E Tremonti è arrivato? Tremonti è arrivato, è all'interno dell'hotel, Bossi anche, Calderoli anche. Siete solo voi del PD a protestare, perché si è parlato anche di esponenti della Lega che erano un po'. No, non ci sono esponenti della Lega, siamo noi del PD e c'è il comitato dei referendari, cioè di coloro che hanno raccolto le firme perché la provincia di Belluno passi per il referendum, per il passaggio della provincia di Belluno con Trento e Bolzano. Il Trentino Alto Adige. Si sta ridisegnando la geografia dell'Italia. Ieri abbiamo intervistato la provincia di Savona che vuole andare con Cuneo. Perché è un caos, non ci sono più punti di riferimento e nessuno sa indicare una strada, e allora succedono queste cose qui. Qui purtroppo è quello che io dico, è la mancanza della politica. Non c'è più una politica in questo paese capace di essere riferimento, di dare Ma se arrivassero i soldi del federalismo fiscale, come dice Calderoli, in anticipo, si potrebbe soprassedere anche sulla chiusura delle province? Ma se, bisogna vedere cosa significa il federalismo fiscale. Fatto come lo hanno disegnato, vuol dire morte certa per territori a scarsa densità abitativa come quello della provincia di Belluno. Va bene, grazie Sergio Reolon, grazie, buona serata. Buonasera. E va bene, questa è la situazione a Calalzo di Cadore davanti all'hotel Ferrovia, Bossi, Calderoli, Tremonti. Andiamo con Nicola che ci chiama da Bergamo. Nicola ci sente? No, non sì, ci sente. Pronto, sì. Eccolo, prego, in diretta. Ma io volevo fare un intervento perché mi sembra che i nostri politici non si rendano conto dello stato che è l'economia. Sento solo della demagogia. Calderoli ieri con i calciatori, si attacca anche diciamo la Chiesa per le attività non di culto, van bene tutte, perché la Chiesa va bene anche che paghi, però va bene anche che i sindacati di tutte le vertenze, anche quello lì è un buco nero dall'altra parte, come sono un po' le cooperative bianche, le cooperative rosse con l'evasione fiscale. Ma il problema non è questo che voglio toccare, è la questione che ci sembra che nessuno abbia a mano il timone, perché in questi 15 giorni l'economia non ha fatto niente, è sempre stata il mercato a portarci in giro, a imporci quelle scelte, a imporci queste riunioni all'ultimo momento. Noi abbiamo fatto solamente della demagogia, perché anche la storia privatizzare le province è vera, va fatto, bisogna accocciare, ma sono cose che vanno fatte a lungo, adesso occorrevano degli interventi un po' più precisi. Grazie Nicola, privatizzare le province, abolire le province, forse lei si è confuso, grazie. Comunque andiamo a Gerry che ci chiama da Alessandria, buonasera. Buonasera. Prego. Io da qualche tempo che vorrei prendere la linea per parlare appunto di queste cose, sia dal lunedì ancora dell'intervento di Mastella, che anche lei, mi spiace, devo purtroppo muovergli una critica, e mi sente? Vada con la critica. A proposito vada giù pesante, sì. A proposito delle dimissioni di quel deputato o senatore che fosse tedesco, che è stato... Sì, no, io credo fosse relativa al ministro della difesa, zu Gutenberg, che si era dimesso per la tesi di laurea che aveva copiato. Poi c'è stato un altro caso di un aspirante ministro della Merkel che ha avuto una relazione con una minorenne. Esatto. Ma non so perché lei dice questa cosa adesso a proposito di Mastella. Questa cosa perché lei ha avallato la grande missione di Mastella, che le ha dato atto. Ma un momento, le dimissioni di Mastella sono state fatte per far cadere un governo. Vabbè, sì, certo, c'era poi... quella coda lì, però non mi interessava riaprire quella. No, il discorso è prende, aggancia tutto, perché lui mi pare che adesso sia un europarlamentare della sì. PDL. No, non è un europarlamentare del PDL. Non è un europarlamentare. Poi entra a parlare di Cepalloni per riguardare la sua sì. provincia. Cioè, bisogna capire. Va avanti da solo, sì. Jerry, bisogna capire che le province non le vuole essere, non vuole nessuno che si toccano. È peggio che se parlassimo del nucleare, dove nessuno lo vuole in casa. Si immagini lei se adesso si devono trovare 5 siti, se solo toccare le province, che in pratica non succede niente, praticamente, perché la gente vive lo stesso se si tagliano le province, ma non si fanno da nessuna parte. Ma guardi che noi è da una settimana che qua intervistiamo e prendiamo anche in giro questi presidenti di provincia o esponenti politici che non vogliono abolire, non vogliono risparmiare, non vogliono chiudere nulla. E quindi da questo punto di vista la pensiamo proprio come lei, Jerry. Va bene, grazie Jerry, non lo so, lei non ascolta, parla ma non ascolta, è lo stesso, grazie. Andiamo da un altro ascoltatore, magari più attento, Ettore dalla provincia di Sassari. Grazie, buonasera. Buonasera. Allora io, come ho già detto alla vostra, volevo parlare sui costi della politica, ma in generale sui costi che gravano su tutti i cittadini. Allora, vediamo un po'. È vero che la politica ha dei costi alti, sono i costi della democrazia, che alcune cose vanno tagliate, sì. Certo. Però io non ce l'ho contro i giornali, perché di questo adesso voglio parlare. I giornali prendono i finanziamenti dalla mia IRPEF, io sono un dipendente pubblico. Allora, quando vedo giornali, Sallustri e compagni, che fanno del qualunquismo sull'attacco a quello, non tanto alle scelte politiche o alla rappresentanza politica, ma a quello che è la politica, la rappresentanza dei cittadini, i costi della politica. Sallustri, per quanto me ne riguarda, per quanto ne so, prende dei soldi pubblici. Allora, se dobbiamo discutere dei costi del cittadino, parliamo anche della pasta, il manager di quella pasta che io acquisto. La pasta? La pasta, la macchina, qualsiasi genere di consumo. Quanto prendono i manager? Quanto un parlamentare? Di meno? Di più? Ettore? Hanno meno? Sì? Sì. Però non è che se, cioè non è che se uno, anche lei è un dipendente pubblico, allora che facciamo? Non la facciamo più parlare, perché siccome prende soldi pubblici non può parlare dei costi della politica. Sallusti al giornale prende dei finanziamenti e dice la sua, così come i politici che sono pagati da noi dicono la loro. Il punto è se è giusto o no e tagliarli questi costi della politica e come eventualmente. D'accordo, ma non, io non voglio che taglino i finanziamenti ai giornali, perché il giornale è cultura, informazione, democrazia. E allora con chi ce l'ha? Parlando. Allora il problema è che fare delle campagne a senso unico non va bene, bisogna dirla tutta la verità e non nasconderci dietro la sabbia, sotto la sabbia, come fa lo struzzo o chi per esso. L'altra questione, si sta parlando di finanziamenti eccetera eccetera, ma lo sa qualcuno, onorevole Casini, che le scelte dell'8 per 1000 sono circa il 40-50%, la rimanenza viene risuddivisa nelle medesime proporzioni di gente che non ha fatto scelte e si ridivide su tutta quella parte in medesime parti percentuali. Grazie Ettore, allora, questo è vero, cose... questo è vero Ettore, cioè il fatto, il meccanismo, si sceglie l'8 per 1000 e poi se scelgono, come diceva, il 40%, tutti i fondi vengono ripartiti in quella percentuale a favore, nel caso, della Chiesa. E questo è un meccanismo che è stato messo in evidenza come un meccanismo forse un po' distorcente. Abbiamo ancora un minuto prima del giornale radio, proviamo con Antonio da Bologna. Buonasera. Sì, buonasera. Senta, una piccola riflessione su quanto si sente oggi, anche ieri, su un nuovo scudo fiscale, un nuovo rientro dei capitali, no? Ma secondo lei, dopo che stanno pensando di ritassare quelli che sono rientrati l'anno scorso, quanti aderiranno? Cioè, io forse dico una cosa magari antipatica, ma per quanto sia un crimine evadere le tasse, lo Stato l'anno scorso ha stretto un patto con chi aveva evaso dicendo tu riporti a casa i soldi, ti tasso del 5%. Non è una bella cosa che uno Stato poi si, per così dire, rimangi la parola e ritassi di nuovo chi l'anno scorso ha aderito a un patto. In più, col cavolo che chi è ancora fuori con i soldi all'estero rientrerà dopo che vede fare queste manfrine. Grazie Antonio, la questione è tutta apertissima. Abbiamo il giornale radio e poi torniamo tra poco con voi ascoltatori. 824 0024 824 0024 il numero verde per intervenire anche questa sera in diretta fino alle 20:30. Cari ascoltatori, 349 238 6666 per i vostri SMS. Qualche messaggio che ci arriva su Facebook. Leopoldo scrive: eliminare tutte le province e passare le competenze ed i dipendenti ai comuni e alle regioni. In effetti non sarebbe male, perché forse la confusione che si è generata col decreto è quella tra comuni e province. Altrove, per esempio in Germania o anche in Francia, non esistono le province, ci sono i dipartimenti o le regioni o i Länder e i comuni. Qua invece si è intervenuti su tutti e due i livelli, creando un po' di confusione. Ulderico ci scrive: e bravo Bottacin, presidente della provincia di Belluno, ha svelato il trucco, tagliare le province piccole non serve a risparmiare alcunché, la solita caramella per indorare la pillola. Comunque le province dovevano essere abolite nel 73, se non vado errato. Viva l'Italia, scrive Ulderico. E poi ancora qualcos'altro, cosa abbiamo? Abbiamo un ascoltatore che dice: Calalzo, all'hotel Ferrovia c'è un treno per Bossi, chissà per dove. Sky TG24. Tempesta sulle borse europee, crollano Francoforte e Londra, giù anche Wall Street. Piazza Affari perde oltre il 6%, a picco il titolo Fiat e tutto il comparto bancario. Morgan Stanley agita lo spettro della recessione, l'Unione Europea con Baron Pui lo scaccia. Romani a Sky TG24, segnali preoccupanti dei mercati, niente scudo fiscale bis. Bersani sia la patrimoniale per i beni mobili di Pietro e per la gogna degli evasori. Israele, attacco due bus, strage, Eilat, rappresaglia di Tel Aviv su Gaza. Siria, assedio diplomatico ad Assad, Stati Uniti ed Europa chiedono le dimissioni. Il Papa a Madrid con un occhio alla crisi, l'Europa offra lavoro ai giovani. Allarme tubercolosi a Roma, sta meglio la bimba contagiata, controlli su oltre 1000 neonati. È finalmente nata la Roma d'America, Di Benedetto rileva la società da Unicredit. Non sapevamo di essere un luogo di culto, abbiamo un esercizio commerciale in un locale di proprietà della Curia, ci scrive Marina al 349-238-6666. Tra poco affronteremo anche il tema dei beni immobili di proprietà della Chiesa, che siano soggetti o meno, come qualcuno dice, che dovrebbero essere soggetti, come qualcuno dice, all'ICI regolarmente come tutti gli altri. Titoli TG3. Tobin Tax e spettro recessione affondano tutte le borse. Crollano Parigi e Francoforte, a picco Milano, meno 6%, tracollo per la Fiat. Il governo smentisce l'ipotesi di un nuovo scudo per i capitali all'estero. Calderoli, realtà virtuale. Bersani, no a nuovi condoni. Dopo le proteste sul web, possibile marcia indietro del governo sull'accorpamento delle feste non concordatarie per aiutare l'economia. Triplice attacco terroristico contro autobus e soldati nel Sinai, al confine tra Israele ed Egitto. 14 morti, decine di feriti, rappresaglia israeliana su Gaza. Benedetto XVI è a Madrid per la giornata mondiale della gioventù. Attenzione su futuro e lavoro. A Salerno, metro di superficie ormai completata ma ferma da anni. La giunta regionale non ne autorizza l'apertura. A rischio un investimento milionario. E la protesta dei nani contro la puzza arriva in Piazza della Signoria, recita lo spot, e Firenze si infuria. Danno gravissimo alla città. La bufera è passata, ogni cosa al suo posto. Festeggiamo l'estate ed il mare di agosto. Tutti insieme compatti, da Ponti da Tarzano. Tutti insieme felici. Il nome del popolo italiano. Poteva essere questo il refrain di ieri sera nel nome del popolo italiano, festeggiamo l'estate, così si è chiusa la seduta lampo al Senato, 6 minuti 11 senatori per incardinare la manovra proprio in quel ramo del Parlamento. Al Senato è scoppiata una polemica sollevata dall'Italia dei Valori per il numero esiguo, si è detto con un eufemismo, di parlamentari presenti, solo 11, una polemica però troncata sul nascere dal questa volta Uniti PD e PDL, che dicono si trattava solo di un passaggio formale e dunque non c'è da sorprendersi se c'erano così pochi senatori. Ma allora però io dico, ha ragione Calderoli quando dice bisogna cambiare i regolamenti, perché questi passaggi qua formali devono farli gli uffici, senza che ci sia la presenza, gli uffici della Camera e del Senato, la presenza dei senatori che con i loro voli aerei costano sulle spalle dei contribuenti. La simila umana e la pizza sarebbe diventata più buona. I beni immobili della Chiesa devono essere assoggettati all'ICI, come chiede qualcuno in queste ore, visto che si parla di tirare la cinghia per lo Stato italiano, che invece da molto tempo contribuisce con queste ed altre agevolazioni fiscali al mantenimento di una parte della Chiesa. Ieri la domanda l'abbiamo girata a Roberto Formigoni, governatore e presidente della Regione Lombardia, politico di Comunione e Liberazione, da sempre vicinissimo, prossimo alla Chiesa, e lui ha risposto così. Uso la sua trasmissione per lanciare una sfida. Questi signori facciano l'elenco degli edifici che secondo loro sono usati in maniera irregolare dalla Chiesa. È facile lanciare un'iniziativa dal sapore un po' retrocio, ottocentesco, anticlericale, anticattolica. Facciano l'elenco di quello che secondo loro viene dato dallo Stato alla Chiesa Cattolica, ripeto, rilegata anche da rapporti internazionali, che secondo loro viene utilizzato male. E noi abbiamo convocato Mario Staderini, segretario dei Radicali Italiani. Buonasera, proprio per questo lei accoglie la sfida. Certo, buonasera a voi innanzitutto e buonasera agli ascoltatori. Credo che Formigoni ha fatto bene a lanciare la sfida, ma in questo caso peste lo colga. Perché tra l'altro lui dice un attacco dal sapore retro ottocentesco, ma non credo che ci sia questo sapore anticlericale in questa questione qua dei finanziamenti. Siamo alla canna del gas, ma guardi, parlando come Stato italiano, Ma guardi, quando io venerdì scorso ho lanciato questa proposta, cioè di tagliare anche i privilegi del Vaticano, in un momento in cui si taglia di tutto, si riduce la spesa per il sociale, quindi intervenire sulla tassa Vaticano, che vuol dire non solo ICI ma IRES 8 per 1000, c'è stato il silenzio immediato della politica e è partito subito il fuoco di fila di chi vuole appunto cambiare le carte in tavola, e quindi Buttiglione, Formigoni, oggi l'Avvenire. Il problema è che probabilmente abbiamo toccato un tabù, il vero tabù. Non si possono mai mettere le mani sui soldi che l'Italia dà al Vaticano sotto varia forma. Ma andiamo alla sfida. La sfida, allora, dobbiamo dirlo subito, è una sfida con le mani legate, in cui io gioco con mani legate per due motivi. Il primo, perché il censimento degli immobili del Vaticano, che chiediamo come radicali da 40 anni, non l'hanno mai fatto e mai voluto fare, né lo Stato né tantomeno gli stessi ecclesiastici. E dall'altra, perché gli amministratori locali, quelli dei comuni come Alemanno, che ha appena regalato 1000 appartamenti all'APSA, e come Formigoni... Scusi, a chi ha regalato gli appartamenti Alemanno? All'APSA, cioè non avete letto due giorni fa, c'era praticamente una causa tra l'APSA, che è l'amministrazione patrimonio Santa Sede, in pratica la ragioneria del Papa, che aveva avuto un divieto di edificabilità su dei suoi terreni perché erano un parco, lo diceva il piano regolatore. Ha fatto causa e per chiudere questa causa, che non avevano ancora vinto, il Consiglio Comunale di Roma, destra e sinistra uniti, hanno regalato un cubature pari a 1000 appartamenti, cioè vuol dire 400 milioni di euro, tanto per stare sui prezzi di mercato, all'APSA, che li potrà collocare poi nei prossimi mesi lì dove crederà più opportuno. Ecco, giusto per farvi capire cosa significa da noi e anche per la politica il Vaticano. Ecco, ma stiamo ai fatti. Io le faccio sentire sull'ICI, per esempio. Cominciamo sull'ICI, perché alla domanda è possibile rivedere il sistema dell'ICI alla Chiesa, che non la paga per gli immobili di culto e Formigoni ha detto così: sono tutti immobili di culto, sfido a trovarne non di culto. Sentiamo. Felici, appunto, cioè, vogliamo far pagare le chiese. Le chiese sono un patrimonio storico, anche artistico, culturale, servono per il culto delle persone. Il fatto di poter avere una religione è stabilito chiarissimamente in Costituzione, fra l'altro esistono anche dei trattati internazionali che legano lo Stato italiano al Vaticano. Le chiese, io non credo che si prendano di mira proprio le chiese in quanto tali, c'è però dell'altro, no, Staderini? C'è tutto un insieme di immobili che sono attività parallele a quelle del culto, che spesso sconfinano in possibilità di ospitalità, alberghi, palestre e altri tipi di attività. Ci sono gli oratori. Esattamente, non stiamo parlando, quando parlavo di disinformazione, nessuno vuole tassare le chiese, le parrocchie o gli oratori. Si tratta di mettere ordine lì dove ci sono degli privilegi fiscali o delle aree di elusione, come oggi lo stesso Avvenire ammette, grazie a delle normative che aiutano chi fa anche attività commerciali. Allora, Formigoni diceva a chi facciamo dei nomi. Innanzitutto partiamo dal presupposto che nessuno si può trovare in una situazione irregolare, visto che c'è una normativa che li ha esentati. È facile dire trovatemi qualcuno di irregolare, ma se la normativa la esenta, tant'è che prima del 2005, quando è nata questa normativa, le cose erano differenti e c'era un contenzioso. L'ANCI ha stimato in 400 milioni, una stima prudente, io dico, il mancato introito. Noi abbiamo fatto un'interrogazione al Comune di Roma che ci ha risposto l'anno successivo a quando è entrata questa esenzione che da un anno all'altro sarebbero venuti meno, e il Comune di Roma, sapete, non è che è molto antipatico al Vaticano, 25 milioni di euro di entrate di ICI. Ma c'è di più, si tratta qua di andare a vedere tutta quell'area che proprio sul dubbio interpretativo diventa elusione. E parlo, lo dico anche a Formigoni, veda là in Lombardia, faccia dei controlli sulle case per ferie, cioè quegli ex conventi in cui le suore sono state messe tutte in un piccolo angolo, se sono rimaste, e sono diventate, diciamo, delle attività ricettive. E questi non possono essere definiti tecnicamente luoghi di culto, perché sono luoghi di ospitalità gestiti da suore, da preti, magari c'è dentro anche una piccola cappelletta, però non sono veri e propri luoghi di culto. Ma gli scamotaggi sono di più. Io invito tutti ad andarsi a trovare sul convegno, sul sito della CEI, c'è un convegno della CEI dell'8 ottobre 2009, l'avvocato Rossi Federico, che dà proprio le indicazioni su come si fa a non essere passibili di ICI. E poi c'è tutti quelli che giocano sulle istituzioni. Ma di più, voglio chiedere a Formigoni se magari le case, quelle, vi ricordate quelle di Propaganda Fide, quelle o gli spazi di Propaganda Fide a Roma, Propaganda Fide che è estera anche lei, ha sede in Vaticano, se quelle pagano per caso non solo l'ICI, ma l'altra grande cosa che nessuno dice, cioè l'IRES, l'imposta sui redditi delle persone giuridiche. In pratica gli enti ecclesiastici sono equiparati agli enti di beneficenza e proprio per questo hanno una riduzione che prima era del 50%, adesso è intorno al 30% dell'IRES. E quali sono questi redditi? Anche i redditi da fabbricato, cioè i redditi che si hanno per quello che si fa con il proprio immobile. E qua è il problema: se fosse pubblico il censimento immobiliare, si potrebbe andare a fare verifica, ma io chiedo, Propaganda Fide che fa su quello? Li paga? E invito Formigoni a informarsi dove? Sul sito di un deputato che oggi è citato dall'Avvenire, Maurizio Turco, radicale, su cui potrà trovare l'elenco di quanto hanno avuto proprio di riduzione dell'IRES, e quindi è un costo per lo Stato, proprio le opere pie, gli enti ospedalieri e gli enti che hanno personalità giuridica, con cifre che superano le centinaia di milioni di euro in un anno, già pubblicati. Ma c'è di più. Il problema oggi qual è? Il problema è andare a capire quello che si può fare in termini di intervento, e quindi lì ci si può fare già direttamente adesso in Parlamento con la manovra, anche perché... Però lei, Staderini, ritiene che mi sembrava un po' pessimista sulla possibilità che si crei una maggioranza su questo, perché secondo lei non si arriverà a un emendamento di questo tipo? per esempio, in un momento difficile come questo per la nostra economia, dove si sta trovando il coraggio per fare altre cose che prima non si è mai trovato il coraggio di fare. Ma guardi, stiamo vivendo in un momento in cui tutto è possibile, in negativo e in positivo. Faccio un esempio, sulla manovra adesso, grazie alla crisi purtroppo internazionale, sono stati costretti a mettere nell'agenda della politica quelle riforme liberali che noi radicali con il referendum da 20 anni avevamo cercato di anticipare per il Paese. Magari passa anche questo, avete parlato prima di una mobilitazione in rete, che i telegiornali, che può darsi che farà cambiare gli accorpamenti festivi. Beh, c'è una mobilitazione in rete, mi sembra, da 24 ore, che ha avuto su Facebook, in un gruppo che si chiama Vaticano Paga Tu, ha avuto 10.000 praticamente adesioni in poche ore. E forse quella è una spinta importante, perché quando si dice che è anticristiano, no, non è vero. La cosa vera anticristiana è l'utilizzo del denaro a fini di potere, fatto da chi invece dovrebbe utilizzare. Io, guardi, sono di origine francescana come istruzione e non è un caso che non c'è un papa che si sia chiamato Francesco, perché se si fosse chiamato ispirandosi a San Francesco probabilmente lo spirito di povertà non avrebbe troppo contrastato. Ma voglio chiudere sull'8 per mille. L'8 per mille, faccio ancora dei nomi. Io ho detto che l'8 per mille non serve tanto per i poveri o per la carità, perché viene speso soprattutto non solo per lo stipendio dei preti, ma per costruire nuove chiese dove in un paese come il nostro, dove c'è il massimo rapporto tra chiese e cittadino. In 20 anni ci siamo ritrovati, è un problema da porsi al Parlamento, ci siamo ritrovati a finanziare 1,5 miliardi di euro, solo di 8 per mille in 20 anni, per costruire nuove chiese, mentre invece nello stesso periodo l'edilizia popolare, le case popolari, gli investimenti dello Stato si sono ridotti a zero. E chi sono andati i soldi dell'8 per mille? Sono andati anche a quelle associazioni, dico io, anche ad antiabortiste, che in questi anni hanno combattuto la legge 40, quel referendum, combattono oggi contro i diritti di Welby e Denaro, come ad esempio, faccio i nomi, perché Formigoni mi ha chiesto l'elenco, il forum delle associazioni familiari, che è stato protagonista di quel comitato Scienza e Vita che tutti ricorderanno. Allora, l'8 per mille lo dice già la legge prevede che qualora aumenti la cifra del gettito in maniera esponenziale, si possa ridurre l'aliquota. E beh, che cosa è successo? Nel 1990 la CEI incassava 210 milioni di euro, nel 2010 incassa 1 miliardo di euro ogni anno. Basterebbe dimezzarlo, sarebbero 500 milioni di euro in più ogni anno, salvati magari tolti alle tasse dei cittadini piuttosto. Attendiamo anche su questo una replica a questo punto, per esempio anche proprio dell'onorevole, del presidente della Lombardia, Formigoni. Io la ringrazio, Mario Staderini, buona serata. Se mi può permettere una cosa velocissima, perché io ho pagato il mio dazio della sfida, Formigoni allora risponda, ci dica lui e pubblichi quante volte ha finanziato Area Vaticana o Cellina in questi 20 anni. Ad esempio, di oggi è la notizia, ancora una volta il meeting di Comunione e Liberazione sarà finanziato, lo scorso anno 240.000 euro, oggi intorno ai 100.000 euro, dalla Regione Lombardia. È corretto che, come avete detto voi, il presidente abusivo della Lombardia, Formigoni, Cellino Doc, finanzi con i soldi della Regione il meeting di Comunione e Liberazione? Ci risponda su questo. E anche del perché non si dimette, visto che con quelle firme false, ma questa è un'altra. Vabbè, questo è un altro capitolo. Grazie, grazie Staderini, buona serata. Grazie a voi. Abbiamo le borse, torniamo tra pochissimo. Un ascoltatore ci scrive al 349-238-6666, Bologna, via Beroaldo, palazzo affittato più locali commerciali tutti affittati di proprietà della chiesa, sono condomini, non ci sono portieri, suore, preti, cripte o cappelle all'interno. Bologna, via Beroaldo, non conosco questa situazione, ma è quello che ci segnala un ascoltatore. Andiamo con i vostri interventi, cari ascoltatori, 800-24-0024, Massimo da Modena, buonasera. Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione, sarà un intervento breve, il mio è una testimonianza su quello che chiedeva Formigoni, un elenco delle strutture, diciamo, della Chiesa, usate come alberghi puramente. Qui a 300 metri va bene da San Pietro, un ex convento con una piccola sala di vita cappella, una trentina di stanze, camera doppia, 170 euro a notte. Questo luogo di culto? Luogo di culto. Beh, forse ci sarà stata una cappella da qualche parte, magari nascosta, no? No, parte c'era, no, una delle 30 stanze era di vita cappella. Beh, però una su 30, insomma. Eh beh, sta così. luogo di riposo più che di culto, luogo insomma di ospitalità, ecco. Sì, a 170 euro a notte, neanche in Francia quest'estate ho pagato una cifra del genere per un hotel a 4 stelle, ha capito. Qui la chiesa purtroppo ha dei privilegi, la faccia sorridente di Formigoni, sempre sorridente quest'uomo che CL non so quanti soldi prenda poi dal Vaticano di ritorno, questo è chiaro. Va bene, grazie Massimo. C'è un ascoltatore su Facebook, Andrea, che chiede una rettifica sulle province, perché abbiamo detto che in Francia non ci sono le province. Lui dice che ci sbagliamo perché in effetti ci sono, si chiamano département e sono poco meno di un centinaio. Sentirò una rettifica? Non lo so, ci sono i département sicuramente, però non ci sono le regioni che si chiamano département e quindi di conseguenza non ci sono le province. Caro ascoltatore, e ci sono i comuni, quindi comuni e dipartimenti e quindi regioni, e non ci sono le province. Questo almeno. Poi c'è un'articolazione anche lì sui comuni, che però anche in Italia ci sono i consigli di zona, insomma. Però la struttura amministrativa francese la conosco perché ci ho vissuto un anno, è questa. Roberta dalla provincia di Varese, buonasera. Pronto? No. Sì, Roberta, ci sente? Salve, buonasera. Sì. Io volevo parlare della manovra. Prego. Allora, i politici praticamente dicono ai cittadini italiani che vogliono un sacrificio da noi. Ok, mi sta anche bene, però loro sacrifici non ne vogliono fare. Allora, io lavoro, per fortuna sono frontaliera, porto a casa i soldi perché mio marito praticamente lui è disoccupato. Non arriviamo neanche a 2.000 euro al mese in due, pago il mutuo, ho un figlio da mantenere e riesco a vivere. Loro con 10.000 euro al mese, un'ipotesi che io faccio, non riescono a vivere. Va bene, grazie Roberta. Lei aveva chiamato per dire questo, insomma, non altro, no? Sì, solo per quello. Un'altra cosa, l'ultima, sì. Poi cosa subito. Allora, ieri ho sentito che c'era questo qui di Savona che voleva portare a Cuneo praticamente, sì. Questo qui di Belluno vogliono andare in nel Trentino, sì. Ecco. E poi lei dove vuole andare? In Svizzera? No, io sto a casa mia perché praticamente mi piace. Già ci va tutti i giorni in Svizzera perché è frontaliera, quindi. Sì, infatti, cioè, abito proprio vicino alla frontaliera, ecco. Però io dico, il 17 di marzo hanno fatto 150 anni dall'Italia, adesso non si capisce più da dove andiamo più a finire praticamente. Va bene, grazie, ma è Italia anche questa, solo che la geografia interna che cambia e che assume nuove sorprendenti connotazioni. Claudio da Torino, buonasera. Buonasera, chiedo scusa, io non ho l'abilità dialettica del politico che lei ha intervistato prima. Volevo solo dire che io all'inizio ero molto negativo nei confronti della manovra, perché soprattutto io speravo che si facessero dei tagli e meno tasse. Sì. E tanto più che quando sento strillare presidenti di provincia, presidenti di regione, consiglieri comunali, sindaci e tutta questa, non voglio usare espressioni sgradevoli, no, fatti, massa, massa burocratica che ci opprime, sì, da decenni, viva la manovra. Io spero che vengano eliminate tutte le province, ridotte le regioni del 50% e i comuni almeno del 30%. Questo non c'è nella manovra delle regioni, so, però infatti mi dispiace che non ci sia, sì. E credo che dovrebbe essere fatta, una volta l'altra si farà, perché tutta questa gente che dice ma noi ripariamo le strade, e per che cosa sono pagati? Per fare i canti, i balli, come succede qui a Torino, che c'erano le strade della città che fanno schifo. E in compenso ogni 10 giorni c'è un festival di qualcuno, si canta, si balla, si suona, ci sono i fuochi d'artificio, eccetera, eccetera. E le strade fanno schifo. Grazie. Grazie a lei. Alberto da Como, buonasera. Sì, buonasera. Io volevo semplicemente portare una piccola notazione in aggiunta al discorso sui risparmi che possono realizzare rispetto ai costi dell'apparato statale. Io non lo so nelle altre regioni d'Italia, ma in Lombardia in ogni provincia c'è una sede di rappresentanza della regione. Ecco, la sede di Como mi risulta che abbia una centinaia di dipendenti, ma il giornale locale tempo fa aveva fatto un'inchiesta e risultava che la frequenza media giornaliera era di 30 utenti, per cui due dipendenti per ogni utente al giorno. Ecco, forse è giusto, anche le province vanno fatte dimagrire, ma anche le regioni sono degli elefanti terrificanti, o quantomeno la mia regione è un elefante terrificante e gli elefanti consumano molto cibo. Grazie. E salutiamo Italo Bocchino, vicepresidente di Futuro e Libertà. Buonasera. Buonasera a voi. Bocchino, lei è quasi il politico dell'estate a questo punto, perché insieme a Bossi, secondo me, perché Bossi con le sue sparate contro Brunetta, anche contro Tremonti, non riferisco, insomma, non riporto l'espressione che ha usato, però insomma, però lei per tutt'altra ragione è stato visto e fotografato insieme a Sabina Began, l'amica stretta di Berlusconi, lei che è stato autore in questi mesi di litigate sui giornali, rotture politiche grandissime con Berlusconi. Tra l'altro lei oggi in un'intervista conferma che ha tentato di fare questo riavvicinamento. Bocchino. Ma guardi, tempo sprecato, perché il nostro giudizio su Berlusconi è noto e tutti i tentativi di riavvicinamento di Berlusconi sono inutili. L'Italia ha bisogno di superare il berlusconismo, noi siamo stati i primi a dirlo, avevamo individuato le due grandi questioni che avrebbero affossato il berlusconismo, cioè la questione economico-sociale gestita coi piedi e la questione morale gestita con superficialità all'interno del PDL, e questo sta avvenendo. Ma quindi conferma che c'è stato questo tentativo, cioè è stata mandata proprio da Berlusconi? No, non lo so, guardi, non mi occupo di queste cose, ho partecipato a un pranzo, punto. No, sa, l'interesse è proprio legato a, lo so, a quello che ha detto. Suo, non è detto che sia l'interesse anche mio. No, però degli ascoltatori forse sì, perché lei in questa intervista al Corriere oggi dice che in effetti ha fatto questo tentativo. Sì, ma credo che Berlusconi sia molto pentito dello strappo confini, perché è finita la sua parabola politica, inevitabilmente sarebbe finita dopo la rottura confini, perché nel momento in cui tu preferisci mettere la polvere sotto il tappeto sulle questioni economico-sociali, quando noi dicevamo che l'Italia così non poteva andare avanti e che aveva bisogno di riforme, che la politica del governo non doveva essere appiattita sulla Lega perché questo avrebbe danneggiato il consenso dell'elettore moderato, poi alla fine lui ha fatto l'atto di forza, ha voluto una rottura perché è abituato agli yes men, e la conseguenza è stato che è crollato il berlusconismo. Oggi, voglio dire, non ha capacità né di governare né di essere maggioritario, cioè senza fini e casini non è più in condizione di vincere nessuna elezione, quindi credo che sia molto pentito e sarebbe bello per lui poter tornare indietro, ma nella vita, quando si sono fatti danni irreversibili e irreparabili, non si può tornare indietro, e quindi non si deve tornare indietro, ma si deve guardare avanti per superare il berlusconismo, costruire un bipolarismo che non sia muscolare, urlato, con la bava alla bocca, ma che sia un bipolarismo tra una coalizione moderata, una coalizione socialdemocratica, progressista, e che con due diversi programmi, due diversi leadership si confrontano e gli italiani decidono. Ma questa sarà anche la posizione di Fini, immagino, perché prima... Ma non c'è alcun dubbio. Perché prima ancora di questo, diciamo, episodio, di questa foto sui giornali e di questo incontro, che poi ha riaperto quella questione di un riavvicinamento tra Fini e Berlusconi, attraverso anche Italo Bocchino in questo caso, guardi, si era parlato di una cena tra Fini e Berlusconi, in realtà smentita poi dal portavoce di Fini. Non c'è stato nessun incontro quest'estate tra i due? Nessun incontro, nessuna telefonata tra Fini e Berlusconi. Berlusconi piacerebbe molto poter recuperare il rapporto con Fini, ma questa è una cosa impossibile. Ecco, il banco di prova anche del vostro atteggiamento, sicuramente politico, sarà, credo, anche quello della manovra, no, Bocchino? Come vi muoverete in Parlamento per... manovra è pessima. Noi come Terzo Polo presenteremo un pacchetto di emendamenti adesso al Senato, e dove presenteremo le nostre proposte, e poi vediamo quale sarà l'atteggiamento della maggioranza. Queste proposte andranno da intanto la lotta all'evasione e alla corruzione, perché qui si chiedono i soldi a quelli che già pagano e non si chiedono i soldi a coloro che non pagano o a coloro che rubano. E poi bisogna intervenire sulle pensioni, bisogna intervenire a favore del lavoro giovanile, bisogna intervenire per finanziare la crescita. Se la manovra è pessima perché è recessiva, non finanzia la crescita, mette nuove tasse e riduce i servizi ai cittadini. Noi una manovra del genere è lontano mille miglia dal concetto che noi abbiamo dell'economia del paese e anche di quello che deve essere l'assistenza sociale nei confronti dei più deboli. E tra le proposte che vengono fatte in queste ore di possibili emendamenti per trovare altre strade, che ne so io, questa proposta del PD che ha fatto breccia in una parte della maggioranza, però oggi Calderoli ha fatto marcia indietro sulla questione dei capitali scudati, per esempio. Ma guardi, intanto bisogna vedere se è possibile chiedere un nuovo contributo a chi ha fatto lo scudo fiscale, perché bisogna vedere se l'anonimato che era garantito dalla legge può essere o meno superato e quindi si può rintracciare quel contribuente per fargli versare nuovi soldi. E bisogna fare una valutazione complessiva. Noi saremo d'accordo alle proposte che taglieranno gli sprechi e la spesa pubblica improduttiva. Noi faremo delle proposte contro l'evasione fiscale, contro la corruzione, contro la spesa improduttiva, come ad esempio il fatto che la sanità spende il 50% più di quello che spendeva 5 anni fa per comprare le stesse cose, quando quelle cose non costano il 50% in più. E quindi noi faremo tutta una serie di proposte, poi dipenderà dall'atteggiamento della maggioranza. Linea di massima, diciamo, conoscendo qual è la situazione all'interno della maggioranza, immagino che ci sarà una gran confusione, nessuna capacità di prendere atto delle proposte dell'opposizione. Alla fine è una scena isterica di Tremonti che annuncerà le sue dimissioni e poi alla fine si farà come sempre, maggioranza blindata, tutti zitti, voto favorevole e tutti a casa. Cioè lei dice che l'alibi per approvare la manovra con la fiducia saranno le dimissioni di Tremonti, che minaccerà le dimissioni. Diciamo, Tremonti ogni quarto d'ora annuncia le dimissioni, perché non dovrebbe farlo nel corso dell'approvazione di questa manovra? Beh, insomma, le dimissioni sì, in realtà non mi sembra che le abbia minacciate di recente in maniera pubblica. Sì. Tante volte no, le minacce nei colloqui con Berlusconi, le minacce quasi in ogni colloquio con Berlusconi. Questo è quello che si legge nei retroscena. Però, insomma, a proposito di quello che si legge sui giornali, un ascoltatore, Giorgio, al 349-238-6666, mi chiede di farle questa domanda: perché va al mare con la scorta, come si legge sui giornali? Non lo so, questa notizia. Beh, perché non lo decidiamo noi dove deve venire, lo decidono loro. Cioè la scorta la segue nonostante lei? Non lo decide chi è destinatario del servizio, ma chi lo predispone lo fa. Senta, ma quindi mi pare che lei abbia una considerazione piuttosto bassa di questa Sabina Began. Pronto? No, simpatico contorno, diciamo, di una cena, ma voglio dire. Ma le hanno teso un tranello? Cioè lei, non ho capito, sapeva che c'era questa intenzionalità in questo incontro? Oppure? Ma non lo so. Non è un problema che mi pongo, guardi, è un fatto talmente marginale da non dovermene occupare più di tanto. I problemi seri sono quello che costerà alle famiglie italiane la manovra economica, il resto sono dettagli. Comunque lei si è illusa, perché lei dice che invece le fa i complimenti, dice che lei è un uomo di una grande umanità. Lo so, siamo tutti di una grande umanità, il problema è ottenere i risultati. Adesso dobbiamo pensare ai risultati per il paese che è in difficoltà. Va bene, grazie. Grazie a lei. Ciao. Buona serata, grazie. Grazie Italo Bocchino. 19.49, ascoltatori, e tra l'altro ci sono rettifiche sulla questione, mi chiedono di rettificare ancora sulla questione delle province e delle regioni francesi. In effetti ci sono le regioni oltre ai dipartimenti, però a quanto mi risulta non hanno le stesse funzioni e la stessa struttura anche amministrativa e burocratica delle nostre regioni italiane. Credo che l'articolazione si basi più su questi dipartimenti che diciamo nella mia traduzione corrispondono un po' alle regioni italiane, ma può darsi che mi sbagli, quindi faccio ammenda. Ettore da Cremona, buonasera. Buonasera. Prego. Ma guardi, alcune considerazioni fresh, cerco di concentrare tutte. Ho appena sentito l'onorevole Bocchino. Sono d'accordo sul fatto che in Italia si debbano creare con un sistema bipolare due poli, uno moderato e l'altro riformista, socialdemocratico. Però bisogna cambiare le facce, perché se i rappresentanti di un partito sono ancora Fini, Casini, Rutelli, dall'altra parte c'è Bersani, che è stato giovane presidente comunista dell'Emilia Romagna, la Bindi, giovane democristiana, e da questa parte tutti i berlusconiani di ferro, che nel frattempo sono diventati vecchi anche loro, alla fine gli italiani continueranno a non credere più a nessuno. Io non sono uno che ha votato Berlusconi, però Berlusconi, nonostante tutto, ha rappresentato una novità nel sistema politico. Gli altri sono vecchi, la gente ha bisogno di vedere delle facce. Beh, adesso però anche Berlusconi proprio giovanissimo non è, non solo per l'anagrafe, ma sono 17 anni che è sulla scena. Però guardi, io non ho mai votato, sì. Però per la politica Bianca era nuovo e la gente certo, ne ha tenuto nel 94 sì. Non è una questione di età, nel 94 era la vera novità. Gli altri, Casini è 40 anni che fa politica, Fini sono 40 anni che fa politica e così via. La gente per credere alle novità, alle cose serie, ha bisogno di vedere gente nuova perché diffida. Sì, sì, ma su questo sono d'accordo con lei. Sono d'accordo prima con lei. Considerazione. Seconda considerazione flash. Sì? Vorrei dire in relazione all'ICI e a quanto non paga il Vaticano e le case di cura religiose, ma sapete che il territorio nazionale è tappezzato di case di cura, di ospedali religiosi, di ospedali di proprietà del Vaticano, tutti convenzionati con la regione. E tutti i luoghi di culto, grazie Ettore, grazie. Formigoni, se ci ascolta ci deve una replica, sicuramente. Manuel da Brindisi, buonasera. Buonasera. Prego. Sì, buonasera. Ascolti, io sto intervenendo per far, diciamo, aprire una discussione sul fatto, sul discorso del TFR in busta paga. Questa è una grande bufala, una grandissima, colossale, anzi un grandissimo e colossale inganno che solo Tremonti poteva partorire e pensare. Perché la cosa più immediata che mi viene in mente è che se il lavoratore decide di prendere il TFR a fine età lavorativa e quindi dopo 40 anni, questo TFR, che sono 100.000 euro, gli vengono dati con una tassazione secca del 12%. Vorrei ricordare che prima del governo Berlusconi 2001-2005 questa tassazione era addirittura del 5%, mentre con Berlusconi, che non mette mani nelle tasche degli italiani, il TFR dal 2001-2005 si è trasformato, questo prelievo, dal 5% al 12%. E vabbè, adesso Tremonti, ripeto, solo lui poteva partorire da una mente così diabolica, no? questo disegno di legge, quest'idea, vuole diluirla in busta paga, e quindi significa che lo stesso importo, cioè i 100.000 euro, vengono tassati anno per anno al 35%, non più al 12%. Quindi il lavoratore nel corso della sua età lavorativa, invece di pagare 10-12.000 euro di tasse secche quando percepirà il TFR, ne pagherà 35.000 euro. Solo Tremonti e solo la Lega potevano, diciamo, gettare fumo negli occhi in questo modo e gli italiani non accorgersene, perché mi sembra che l'ho sentito poco questo discorso, che è fondamentale. Grazie Manuel, grazie. 800 24 0024 il numero verde, cari ascoltatori, per intervenire ancora fino alle 20:30. Guido da Pescara, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Prego. Gli ascoltatori. Niente, io volevo intervenire su un paio di cosucce. Una è i beni materiali della Chiesa. Io sono cattolico professante, vado a messa, sempre faccio la comunione, quindi non parlo come ateo. Però devo dire che oltre ai beni immobili, quali case, ospedali e tante altre cose che si sono dette, la Chiesa ha anche migliaia di ettari di terra, di campagne, che affissa regolarmente ai contadini appartenenti a alcune categorie, associazioni di categoria, vedi Confagricoltura per esempio, e traendone una rendita, ecco. Quindi su quelle nemmeno forse pagheranno le tasse, io non lo so, è una domanda che rivolgo agli ascoltatori, a lei. Poi un'altra cosa, queste liti da pollaio per la manovra sì, la manovra no, non va bene, va bene. Ma non ci si può riunire prima, chiudersi in una stanza, picchiarsi e venire fuori con una idea, una cosa? Voglio dire, una volta nei conclavi si apriva il tetto per far sbrigare i cardinali a nominare un papa. E si può fare la stessa cosa, c'è tutta questa urgenza, si apre il tetto e si fa bagnare i nostri politici. Ma insomma, veramente assistiamo a... Io come cittadino, sono anche sì, giornalista tra l'altro, ma come cittadino veramente deluso, rimango allibito. Vabbè, grazie e Guido. Dispiaciuto, perché è veramente uno spettacolo terrificante. Luciano da Roma, buonasera. Pronto, Luciano, che succede? Aveva lasciato il telefono chissà dove. Sì, no, perché ho aspettato... E c'era stata un po' di attesa, sì, prego Luciano. Sì. Comunque io intervengo dopo un'ora praticamente che c'era stata... Non si ricorda più nemmeno perché voleva intervenire. Sì, no, sì. Sì. E poi incalzato da lei sicuramente ha detto quello che voleva, che doveva dire, cioè che praticamente la soppressione delle province non è una questione di metri quadri o di abitanti, ma di razionalizzazione dei costi, perché ovviamente non c'è nessun licenziamento, i dipendenti vengono appoggiati dalle regioni e qui ci sarebbe il disegno di un accorpamento dei servizi, ovviamente per una gestione migliore della cosa pubblica. Sì, è vero che all'inizio ci potrebbe essere un risparmio non grandissimo, ma questa cosa delle province è ormai roba vecchia, voglio dire, cioè nel senso che e anche le province hanno i loro appalti e hanno l'ennesima polizia, le ennesime spese, sono tante in effetti. Però intanto in questa ora avete detto tantissime cose e quindi aggiungo una cosettina in più. Sì. Addio. A questo discorso, cioè praticamente ci vorrebbero queste persone che parlano e che in questi giorni dicono un sacco di cose, ci vorrebbero statisti, uomini di Stato, cioè uomini che fanno l'interesse dello Stato. Questa parola statista in tutti questi anni io non mi ero mai chiesto che cosa volesse dire profondamente. Ecco, uomini di Stato che fanno gli interessi dello Stato. Va bene, grazie. Grazie. Siamo quasi alla pausa. Maria da Brescia, buonasera. Buonasera. Prego. Ascolti, io sono un po' emozionata perché sono molto indignata con lei. E adesso le spiego. Io la sento la sera mentre ceno. E da un po' di tempo a questa parte ho badato che lei taglia la parola in bocca alle persone che hanno idee diverse dalle sue. No, no, non è vero, oppure... non è vero. Grazie, buonasera. No, scherzo, signora. Signora, scherzo. Davvero, allora scherzo, era uno scherzo, l'ho fatto apposta, signora. No, no, prego, no, prego. No, mi lasci spiegare. Cioè, vada. Allora, parli. Allora, prima del telegiornale delle 7 le ha parlato una persona che ha detto... alla sua replica, al suo direttore, come, ed è tipico di chi è un po' sordo, e lei gli ha detto, lei parla e non ascolta. Sì, è vero, spero è vero, che sì. Non liquidi me con una parola franchante come fa con gli altri. Vabbè, no, ma in quel caso lì l'ascoltatore davvero non ascoltava, perché a me piace interloquire no. E lui andava avanti e non rispondeva a quello che alla sollecitazione che gli proponevo io. E secondo me questo dopo un po' diventa noioso per gli ascoltatori. Maria, ma era solo per questo che è intervenuta? Sì, solo per questo. Va bene, registriamo, mettiamo agli atti la telefonata anche di Maria da Brescia. Grazie, abbiamo la pausa e rientriamo tra pochissimo. Eccoci qua, 20 in punto, sentiamo i titoli del TG1. Borse, giornata da incubo, timori per la tenuta della ripresa globale mandano i listini a picco in tutto il mondo, Milano perde più del 6%. Il governo smentisce ipotesi di scudo fiscale bis Bersani, barca senza timoniere, il centrodestra e il calo dei mercati è internazionale. Terrore in Israele, attentato a Eilat, attaccati con lanciarazzi, un bus e un mezzo militare, 14 vittime e rappresaglia su Gaza. Giornata mondiale della gioventù, centinaia di migliaia di ragazzi in festa a Madrid, all'aeroporto i Reali e Zapatero accolgono il pontefice. Roma, gemelli, controlli sui neonati per la TBC contratta da un'infermiera, contagiata una bimba di 5 mesi ma nessun allarme. Dopo 40 anni Gianni Morandi torna a girare un film in cui recita la parte di un cantante sull'eventuale bis al prossimo Festival di Sanremo, dice aspetto una proposta dalla Rai per decidere. C'erano 40 anni che Morandi non faceva un film, non ho capito questo titolo, non mi sembra di averlo rivisto anche al cinema forse, o forse era la televisione, chi lo sa. Davide da Varese, buonasera. Buonasera. Prego. Volevo solamente ricordare all'onorevole dei radicali, e guarda caso un radicale che parla male del Vaticano, è un caso, sarà un caso. Volevo solamente ma non è un caso, sono loro che si sono documentati sulla questione degli immobili della Chiesa a fargli pagare l'ICI, perché gli altri partiti su questo io dico dormono, ma in altri casi non se ne interessano, i radicali invece se ne interessano, e Formigone aveva lanciato una sfida e ecco perché Staderini. Ho sentito ieri Formigoni, però quello che volevo ricordare magari è una cosa che passa in secondo piano visto il secolo e mezzo che è passato dall'Unità d'Italia, che con la breccia di Porta Pia lo Stato italiano, allora nascente, derubò e saccheggiò parecchie proprietà vaticane e non sono mai state restituite. Questi sono tutti atti documentati nel primo Parlamento italiano. Tanti monasteri erano stati saccheggiati dai Savoia, che allora era lo Stato italiano, e poi non sono Se lei preferisce tornare allo Stato Vaticano, al Stato Pontificio, che occupava mezza Italia, se vuole questo. No, quello che voglio dire è che sì. Se era proprietà della Chiesa quel terreno, è stato preso senza aver dato nulla al Vaticano, è stato saccheggiato, preso senza dare nulla. Sono arrivati, è stato saccheggiato, c'è stata la storia di mezzo, l'Italia è diventato un paese unito senza altre interferenze, men che meno quella del Vaticano, quindi poi insomma dello Stato Pontificio che è sparito. E quindi è chiaro che ci sono stati dei beni che sono passati allo Stato italiano, però se lei, ripeto, preferisce tornare allo Stato Pontificio, potrebbe essere la sua proposta. Sì. No, che allora era uno Stato riconosciuto da tutta Europa, diciamo. Però poi è successo qualcosa nel frattempo, no? Sì, la breccia di Porta Pia, sì, con i Savoia che hanno preso possesso non solo dello Stato Vaticano, ma di tutte le proprietà della Chiesa. Dopodiché i monaci, i frati, visto che parlava di Francesco, hanno ricomperato queste proprietà pagandole al nascente Stato italiano con il loro lavoro, che erano loro proprietà. E questi sono atti documentati. Questa non è un'invenzione. Quindi vorrei sapere chi ha pagato o chi deve pagare questo saccheggio, visto che adesso si ritira in ballo la Chiesa perché deve dare dei soldi, non si sa a chi. Ecco, questa è la prima cosa. A noi italiani, a noi cittadini. Grazie Davide, comunque. Titoli della 7. I dati negativi sulla crescita negli Stati Uniti mandano a picco i mercati in Europa, bruciati 300 miliardi, il dato peggiore dal 2009. Milano, maglia nera, chiude a meno 6,15, trascinata da Fiat che perde quasi il 12% e dai bancari. E dall'America arriva forte il timore della recessione, la stagnazione di crescita e consumi sembra già sicura per il 2012 con il conseguente contagio dell'economia europea, dove la locomotiva tedesca ha rallentato e più generale tutta la zona euro è in difficoltà. Il panico mercati getta ombre sulla manovra italiana. I 45 miliardi di euro e mezzo che restano il saldo di riferimento potrebbero non bastare. Berlusconi aperto alle modifiche. La maggioranza cerca una linea comune per gli emendamenti. Smentito un nuovo scudo fiscale. E sulle misure del decreto si rafforza l'asse Lega-Tremonti col ministro dell'economia e il senatore decisi a difendere le pensioni di anzianità. Nell'opposizione Bersani rilancia l'idea di una nuova patrimoniale e chiede di cambiare la tassa di solidarietà. Si riaccende all'improvviso la guerra contro Israele. Gruppi di terroristi attaccano un pullman e auto di civili vicino a Eilat, città turistica del Mar Rosso. 14 le vittime, 7 israeliani e 7 assalitori. Immediata la rappresaglia di Tel Aviv su Gaza. I raid aerei provocano morti e feriti. Più di 1 milione di ragazze e ragazzi di tutto il mondo ha accolto a Madrid Papa Benedetto XVI per le giornate mondiali della gioventù. Ad incontrare il pontefice c'era sorpresa anche il capo del governo, Zapatero, e gli indignados che hanno protestato prima contro i Papa Boys e poi si sono scontrati con la polizia. Raffica di messaggi di ascoltatori al 349-238-6666 all'intervento di Davide da Varese che chiedeva il rimborso da parte dello Stato addirittura alla Chiesa in seguito alla breccia di Porta Pia. C'è chi scrive: tutti i soldi che la Chiesa ha rubato nel mondo, le crociate e la scoperta dell'America, dite all'ascoltatore di documentarsi. E poi c'è chi chiede, come Ale da Senigallia, di ricordare l'editto apocrifo di Costantino per ridere. E invece un altro ascoltatore che dice: nel 29 il Vaticano è stato risarcito. Erano i patti lateranensi a cui si riferisce l'ascoltatore? Sì, credo proprio di sì. E salutiamo intanto il nostro prossimo ospite, Osvaldo Napoli. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori. Onorevole del PDL, nonché presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Voi avete chiamato a raccolta tutti i presidenti, tutti i sindaci esponenti dell'ANCI il 29 agosto perché per protestare contro, in un'assemblea dell'ANCI che protesterà però formalmente contro la volontà del governo di tagliare i piccoli comuni. Lei dice, voi dite, avete fatto i conti, le stime, si ricava troppo poco da questa misura. Però quanto mette a budget il governo su questo, Napoli? Guardi, il governo mette una cifra abbastanza considerevole, ma non è tanto quello il problema. No, però questo mi preme chiarirlo, poi le faccio dire tutto quello che vuole contro il provvedimento, però chiariamo questo punto, perché io ho sentito dire da presidenti di provincia che sulle province mettono a budget, cioè si risparmierebbero solo 80 milioni di euro. Non mi pare francamente la cifra prevista da Tremonti. O Tremonti è impazzito oppure qualcosa non torna. Sui comuni, Napoli. Per quanto riguarda i comuni, il taglio dei comuni per quanto riguarda il 2012 salirebbe a 1 miliardo. Ma quindi però attenzione che non riguarda soltanto i piccoli comuni, ma riguarda complessivamente, diventerebbe poi fra quello che era già stato deciso in precedenza, sì, e quello deciso in questa manovra, arriverebbe un taglio totale di 2 miliardi e 700, quindi una situazione che di colpo raddoppierebbe più del raddoppio di quello che era preventivato. Quindi quella dei piccoli comuni però è una falsa problema. Prima cosa il governo, lo dico io che faccio parte del governo teoricamente, nel senso che faccio parte del centrodestra, aveva già diminuito all'inizio del 2011 i consiglieri comunali del 20% in termini complessivo, grandi e piccoli comuni, e tenendo altresì presente che oggi sotto i 1000 abitanti affermare di lasciare soltanto il sindaco, con tutto il rispetto, vorrebbe ritornare al podestà. Ecco, questa mi sembra una cosa importante, chiariamolo, perché io stesso... Pronto? Comune, sì. Sì. Di una minoranza diventerebbe un comune antidemocratico. Allora noi, ed io dico, e sì, lo dico a chi ha fatto questa normativa, perché non l'ha fatta Tremonti, c'è qualcuno che l'ha fatta, degli alti tecnici che sono i grandi pensatori, ecco, ma non sarà che invece di qualche tecnico ci ha messo la mano qualche politico ed è tutto fuori allenamento? Perché un politico di buon senso vuol dire che non ha la minima idea di quella che è la società democratica. Sì. Un paese dove non c'è, ripeto, dove si ritorna ad avere il podestà, è l'antitesi. No, della la mia era solo una battuta, Napoli, perché lei ha sfiducia nei tecnici di Tremonti, io sfiducia nei politici, perché è stato detto, guardi, e secondo me... Io sfiducia in questo senso. Quando però mi faccia finire la domanda, Napoli, scusi un attimo, perché questa cosa che lei ha detto è importante. È stato detto che il decreto è arrivato in fretta e furia, un po' raffazzonato, e questo provvedimento, perché per come stanno emergendo i dettagli in questi ore, in questi giorni, le do ragione su questo punto, è sorprendente che si pensa di poter, perché io credevo che i comuni fossero accorpati, i piccoli comuni sotto 1000 abitanti, finendo in braccio, diciamo così, ad altre entità comunali, quindi con una possibilità per i cittadini di eleggere il consiglio comunale di una entità maggiore. Invece, come lei ci conferma, la misura prevede che i comuni sotto 1000 abitanti abbiano il sindaco, ma non abbiano, non voteranno la rappresentanza elettiva, e quindi mi sembra una cosa incostituzionale. Le chiedo scusa, le dicevo, allora qual è il problema? Sì. Che loro hanno, chi ha fatto questa norma voleva mantenere il campanile, che è riferimento della cultura e la tradizione del luogo, mantenendo il sindaco fine a se stesso, senza rendersi conto però che in qualsiasi comune al mondo ci deve essere 2 di maggioranza e 1 di minoranza, 3 di maggioranza e 1 di minoranza, ma chi controlla, chi stimola, chi va a vedere che un altro fa un errore è il minimo indispensabile, mentre invece quello che dovrebbe diventare obbligatorio, e lo dico anche come autocritica nei confronti dei sindaci, è l'unione dei servizi. Solo 2500 comuni su 8100 hanno unito i servizi, mentre invece la normativa avrebbe dovuto essere applicata obbligando i comuni a unire i propri servizi. Lei pensi che nei comuni sotto i 1000 abitanti sa quanto prende un consigliere comunale? 17 euro lordi per 3-4 consigli comunali all'anno. Sì, però allora, poi ci sono anche Napoli, se no non si spiegherebbe la cifra di 1 miliardo di euro messa a budget, ci sono anche le spese per le strutture, le spese di segreteria, c'è tutta una serie di cose, le spese forse anche per gli immobili che ospitano queste assemblee elettive. Ora, detto che il provvedimento probabilmente è stato scritto in fretta e ci sono delle cose che non tornano, però ci tolga un dubbio, il dubbio che si protesti semplicemente perché si va a toccare l'orticello. Lei tra l'altro è piemontese e la maggior parte d'Italia, i piccoli comuni si concentrano in Piemonte, non è che lei, che è di Torino, si fa capofila di questo proprio per una difesa territoriale, Napoli. No, ascolti, non nella maniera più assoluta. Vedi che io le vengo a dire che sono perfettamente d'accordo e siamo perfettamente d'accordo nell'obbligatorietà dell'unione dei servizi in maniera tale che miglior servizio, minor costo, perché unendo le forze è ovvio che lei, se fa un appalto su una mensa, anziché di 100 lo fa di 1000, su 1000 lei ha probabilità di avere una scontistica maggiore e quindi può anche avere oltretutto un servizio migliore. E un sindaco che non fa questo deve andare, un sindaco che deve andare a casa, e se non l'ha fatto ha sbagliato. Ma quello di mantenere l'entità del comune, ripeto, culturale, tradizioni, il resto è giusto, ma è giusto attraverso anche la rappresentanza della minoranza. Vede, io gli ho detto 1 miliardo che non riguarda il costo complessivo della manovra, 2 miliardi e 700 milioni, non quello dei piccoli comuni. Quello dei piccoli comuni sarà di 200 milioni all'anno. Se basta, non sarà quella la grande però cifra. Sì, sarà quel che sarà, però diciamo, di fronte a un provvedimento eventualmente riscritto, Napoli, voi sareste disponibili a una mini dieta dimagrante? Perché lei cita i dati e dice in Italia ci sono 8.000 e rotti comuni e non sono più di 36.000. Sì, però in Germania ci sono gli stessi che ci sono in Italia e non ci sono le province. Beh, questo è un altro discorso. Per quanto riguarda le province, abbiamo sbagliato a scrivere dicendo l'abolizione. Se lei mi dicesse la razionalizzazione, io le direi di sì. E se poi invece subentra anche qua la difesa della provincia e del proprio Prato Verde, non vi sono dubbi che è un errore. E sì, 300.000 abitanti, però se sono in montagna, se non superano i chilometri quadrati. Ecco, questo è un errore, perché io, Osvaldo Napoli, ma penso anche lei, se si mette una cartina dell'Italia davanti a sé e va a guardare le province che ci sono, io lo dico da piemontese, ma con tutto il rispetto, ma con profondo rispetto, ma che ci sta a fare DL Vercelli quando sono distanti 40 chilometri? Che ci sta a fare Novara e Verbania quando erano già una provincia unica? Ma che ci sta a fare Cuneo, Asti, Alessandria o Però Cesaretto? Scusi, Napoli, ma che ci sta a fare i paesini di 40 abitanti spersi nelle campagne piemontesi o nelle valli? Che ci sta a fare il comune di Barolo, che è notissimo per il vino, però rimarrebbe senza però una rappresentanza in Barolo di 500 abitanti? È la stessa cosa, no? Ma io le sto dicendo, infatti, che io l'obbligatorietà gliela faccio sui servizi. Che poi ci sia una rappresentanza. Ma anche sulle rappresentanze, però, scusi. Ma una rappresentanza di 3 persone che rappresentano il comune. Ma fa ridere, però. Fa ridere, però. Cioè, io capisco che una rappresentanza del sindaco, come dice lei, è sbagliata e probabilmente anche incostituzionale, non lo so, qualcuno forse lo dirà. Però anche pensare che un paese di 100 abitanti debba avere 3 rappresentanti, non le fa un po' ridere? No, a me non fa ridere. Io lo ritengo, invece, mi scusi una cosa, lo ritengo estremamente. L'Italia è un paese, quando si è formato in termini feudale, in modo particolare il Piemonte, dove lei faceva l'esempio di Barolo, dove c'è una torre, dove c'è un riferimento. Quindi posso dirle una cosa, certo. Abbia pazienza, il Sestrier, che è un paese che ha 700 abitanti, che però ha un giro di 30.000 abitanti nel periodo di 6 mesi invernali. Ma lei come lo va a calcolare i servizi che lei deve dare rispetto a quei 6 mesi in cui ha 30.000 abitanti? Ma potrei farle l'esempio di Camaiore, quando, che ne so, dico Camaiore per dire, ma le faccio l'esempio di tutti i paesi litorali che hanno durante il periodo estivo di 5 mesi lungomare, hanno 500 abitanti, 1.000 abitanti, 3.000 Però abitanti. Napoli, sì, è chiaro, l'esempio del Sestriere coglie nel segno, d'accordo, un punto a suo favore. Però, allora, mi dica questo, lei che è un esponente della maggioranza, com'è possibile che nel paese nel quale si parla di federalismo da 20 anni, il vostro governo sta portando avanti il progetto, poi arriva il momento di approvare un decreto per razionalizzare gli sprechi e viene fuori un provvedimento così che non torna, raffazzonato? Che è successo? C'è stata della approssimazione. Io le sto dicendo e le confermo, lo dico da maggioranza, che è un provvedimento da cambiare. E io credo, lo dico con profonda autocritica, io credo che chi ha fatto... No, c'è della confusione, Napoli, non c'è solo da cambiare il provvedimento, c'è della confusione nel governo, perché altrimenti non si spiega. Sto dicendo, vede, sì. Governi di centrodestra e di centrosinistra, vorrei raccontarle la storia, vede, se prima di fare una normativa di legge chiamassero chi è invece le persone adatte e che operano in quel tipo di settore, questi errori non verrebbero fatti. quindi io le confermo, ma perché devo aver paura di confermare quella confusione? Resti un attimo in linea a Napoli, se può ancora un minuto facciamo le informazioni sul traffico e poi le volevo chiedere che cosa farete il 29 agosto. Osvaldo Napoli, presidente del Lanci, allora cosa fate il 29 agosto? Cos'è previsto, un'assemblea? Le nostre abitudini, i sindaci sì. Hanno la testa sul collo e rappresentano le istituzioni, quindi la nostra non è una protesta cosiddetta, fra virgolette, direi moderata e pacifica, dove vogliamo andare esclusivamente in piazza per dimostrare nei confronti di un provvedimento che riteniamo, come dire, penalizzante nei confronti dei piccoli comuni. Quindi, ripeto, noi proporremo le nostre ragioni, quelle che in parte ho già detto io questa sera, in maniera tale che il governo possa in Parlamento e le forze parlamentari modificare almeno in parte un provvedimento che riteniamo iniquo. E quale Attenzione. Potrebbe essere una misura alternativa per recuperare le stesse cifre? Ma noi siamo ascolti, ma le stesse cifre, ma ascolti, noi siamo sempre nel comparto dei comuni, perché noi siamo disponibili a parità di saldi di discutere, non ci sono dubbi. Ma ripeto, non è che lei diminuisce il costo della politica abolendo i consiglieri comunali dei piccoli comuni, gliel'ho dimostrato prima, la cifra è irrisoria. Cioè, noi diciamo certamente che anche quello può entrare ancora ulteriormente nella diminuzione, però mi scusi, lo dice uno che fa il parlamentare, iniziamo dall'alto, che da tanti anni i consigli regionali, in questi anni sono aumentati i numeri di consiglieri regionali, non si sono diminuiti lo stipendio, contrariamente al di là di quello che voi fate vedere hanno fatto i parlamentari, non sono diminuiti i parlamentari, non diminuiscono i parlamentari. Certo, non ce ne parli, in Sicilia sono 90 e non allora si può far nulla perché è una legge di rango costituzionale. Allora lei vede che ci sono due pesi e due misure che è necessario razionalizzare complessivamente in questo paese. Va bene, grazie Osvaldo Napoli, grazie, mi pare che la posizione dell'ANCI sia stata espressa chiaramente, almeno questa sera qua alla Zanzara. Un messaggio di un ascoltatore, 349-238-6666, sempre a commento di Davide da Varese, che chiedeva i rimborsi dello Stato al Vaticano dopo la breccia di Porta Pia. Questo ascoltatore Roberto dice: parlo a nome del Granducato di Toscana, anche noi vogliamo non pagare l'ICI come risarcimento per l'invasione dei Savoia. Andrea da Modena, buonasera. Buonasera, salve. Io le telefonavo per la questione dell'ICI alla Chiesa, volevo fare un intervento molto breve. Volevo semplicemente dire questo, che io sono d'accordissimo sulla questione di far pagare l'ICI a tutte quelle strutture che sono ormai diventate attività extra clericali, cioè come alberghi, eccetera, partendo dal presupposto che però se la Chiesa dovesse pagare, le farebbe poi a pagare a chi affitta questi luoghi. E pazienza, è come tutti quegli altri che vanno in tutti gli altri luoghi. Se io affitto la mia casa a un non vedo privato, perché per uno che appartiene al mondo della Chiesa e frequenta l'ospitalità della Chiesa Cattolica debba pagare di meno di una persona di un'altra religione o un ateo. Perfettamente d'accordo su questo, però il mio intervento voleva anche essere a testimonianza di questo. Esistono diocesi, come per esempio quella di Modena, che invece anche in maniera economica e sostanziosa finanziano progetti del comune, e questa è una cosa che bisogna dire, perché per esempio attività fatte con i giovani, attività fatte con gli anziani, la Caritas diocesana tante volte sopperisce a mancanza sul territorio di servizi del comune, e questo come lo vogliamo mettere? Lo vogliamo mettere come una bella iniziativa che dovrà continuare a essere fatta, però nella trasparenza, per cui non si può fare uno scambio continuo di favori, altrimenti non va bene. Io, questo almeno è il mio punto di vista, credo che ci voglia trasparenza. L'ICI sui luoghi di culto non si paga, su tutto il resto sì, sarebbe giusto, e poi chi vivrà vedrà, insomma. Quello che dice lei è vero, ma non credo che pagare l'ICI sugli immobili impedirebbe alla Chiesa di portare avanti quello che fa di buono nei comuni o a livello di assistenza sociale. In fondo l'ICI per un immobile è una quota piccola, non è che si parla di tassare chissà che cosa. Non so se è d'accordo. Perché la trasparenza va richiesta e va data, soprattutto come Chiesa. A me viene anche un dubbio, io voglio chiedere per esempio i radicali, o comunque chi per loro, quando loro affittano un luogo pubblico per fare per esempio volantinaggio, tante delle loro attività che possono essere più o meno condivisibili, pagano le tasse dell'utilizzo di luogo pubblico come le pago io privato? Quali sono le tasse di utilizzo di luogo pubblico? Queste cose. Allora, anche a me viene il dubbio, però se chiediamo chiarezza e trasparenza alla Chiesa la dobbiamo dare anche noi. Ma e noi chi, scusi? Cioè, noi intendi partiti e noi per primi. Sì, i partiti è un capitolo, sicuramente non è l'ultimo da affrontare nei risparmi della spesa pubblica. Qui si sta parlando di evitare che nei rivoli della spesa pubblica ci sia anche questa cosa qua di agevolazioni fiscali nei confronti della Chiesa che non sono giustificate dai concordati. È questo, credo, il tema. Comunque, grazie anche a lei. Chi abbiamo in attesa? Dove andiamo? Luciano da Piacenza, va? Buonasera. Buonasera, dottore. Prego. Allora, avevo due domande da farle. Punto primo, vorrei sapere se una multinazionale, come deve considerarsi oggi la Chiesa col Vaticano e tutte le banche che ha, eccetera, ha ancora il diritto di rappresentare una religione. Non credo. E punto secondo, io non vedo perché non possiamo entrare nelle loro banche, visto che sono sul suolo italiano, come abbiamo fatto a San Marino. Questa è una domanda che pongo a lei. Poi vorrei farvi complimenti a tutti voi. Grazie, grazie. Abbiamo ancora pochi minuti. Vorrei sentire ancora qualche ascoltatore. Cristina da Brescia, buonasera. Sì, buonasera, ci sono. Allora, due interventi velocissimi. Il primo era che io, come elettrice del PDL, chiederei al PDL di avere coraggio. Allora, mi sono rivista in questi giorni dagli slogan delle campagne elettorali precedenti in cui veniva detto meno tasse, più libertà. Allora, secondo me abbiamo perso un sacco di tempo ed è importante che in questo momento si mettano da parte davvero le armi, si faccia una riforma senza più avere problemi, nel senso le province vanno abolite. Cioè non c'è alternativa di scegliere quelle più grandi, quelle più piccole, quelle con più territorio, quelle con meno. I comuni piccoli vanno aboliti perché lo sappiamo tutti, perché io sono anche un'amministratrice, lo sappiamo tutti che i comuni piccoli non possono reggere i servizi se non si accorpano con gli altri comuni più piccoli, se non fanno dei consorzi o consorziano i servizi. Lo facciamo anche noi come comuni medio-grandi, però alla fine se non si impone, non si dà una linea, probabilmente la norma così come è stata proposta non va bene, perché ovviamente tenere un sindaco senza opposizione probabilmente non è il metodo migliore per abolire i comuni piccoli. Però accorparli, creare un unico comune con dei servizi uniti è sicuramente la cosa migliore. Grazie. Grazie, grazie. Ancora un altro ascoltatore, Arturo da Caserta. Buonasera. Salve. Io volevo fare una riflessione molto veloce. Io sono un giovane laureato in economia. Secondo me le possibili modalità di recupero, insomma, di una parte di quel tesoretto, insomma di quella somma che viene considerata importante per la manovra correttiva, si può articolare su tre, diciamo, linee. La prima è che quella principale è l'evasione fiscale. La seconda, diciamo, sull'abolizione dei costi della politica, quindi parliamo di parlamentari e di province. La terza è la Chiesa, quindi è la riduzione e la tassazione dei capitali che vengono dall'estero. Io penso che la parte principale però sia proprio legata all'evasione fiscale, nel senso, cerchiamo di tracciare i pagamenti sui 100 euro, tracciamoli tutti, indipendentemente da qualsiasi cosa. Poi ovviamente facciamo capire agli imprenditori che l'IVA non è loro, per cui se aumentiamo l'IVA, l'aumento dell'IVA si ribalta sul consumatore finale, perché loro cosa fanno? Aumentano i prezzi, però l'IVA aumenta dell'1% e loro aumentano i prezzi di una percentuale maggiore rispetto a quella dell'IVA, per cui diciamo ritorna sempre agli imprenditori. Gli imprenditori devono capire che devono smetterla di fare fatture false, di non pagare le tasse, perché alla fine le pagano sempre i dipendenti. Devono capire che se loro pagano più tasse attraverso uno sgravio del cuneo fiscale, pagano meno tasse sul costo del lavoro, per cui tutti quanti vanno bene. Noi giovani siamo esasperati, non abbiamo posti di lavoro, questi non capiscono che si stanno mangiando l'Italia, sia gli imprenditori che i politici. Devono finirla, perché il clima sociale in noi giovani stiamo veramente arrabbiati. Questo clima porterà i giovani, mi sembra il film di Nanni Moretti, credo che fosse Eccebombo, e Nanni Moretti diceva: parla con lui che è bravissimo a fare il giovane, e lei era un po' così. Comunque grazie, grazie a tutti per questa sera, anche per questa sera è tutto, noi ci risentiamo domani dopo il GR delle 18. Buona serata a tutti. Radio 24, la passione si sente.